si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. C'è stato un tempo in cui sono stato giovane, pensavo d'essere forte e infallibile, ma poi gli schiaffi che la vita a volte dà mi hanno fatto sciogliere in un bagno di umiltà. Mentre stavo lì a riflettere e a compiangermi, ho sentito che Forza Italia ha votato questa riforma in prima lettura al Senato con Romani, poi è arrivato Brunetta e ha cambiato idea. Se ci staranno, bene, se non ci staranno faremo senza di loro. Quello che è importante è che si faccia finalmente una riforma per gli italiani. Direte perché il treno, perché aspettate. Noi abbiamo votato all'unanimità all'ultimo Consiglio Nazionale del 4 di agosto Forza Italia il cambiamento della legge elettorale e il cambiamento della riforma costituzionale. Da lì non si torna indietro, non ci sono retroscena, non ci sono trattative, non ci sono tavoli, non ci sono scambi. Stavo seduto qui mentre passava. Nel centrodestra penso che il peggiore sia proprio Berlusconi, perché si veste come un tranviere, sempre con quella divisa, il doppio petto, con delle cravatte che trovo orrende non tanto nel disegno del tessuto, quanto quei nodi che più che nodi sono delle boule, che fanno bene per riscaldare lo stomaco d'inverno. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. 18 20 e 30 800 24 00 24, il numero verde, cominciate subito a prenotare il vostro intervento in diretta. Gli altri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale, Si può fare trattino radio 24 è il nome della nostra pagina Facebook, Si può fare 24 l'account su Twitter, il mio invece è @AleMaurizi. Ci lasciamo così prima di Ferragosto con questo PIL che cresce dello 0,2% solamente come le attese, ma appunto ci si attendeva qualche cosa di più. Non sono buone notizie per il governo, ma ci lasciamo così soprattutto per quanto riguarda il tema caldo delle riforme. I giornali sono pieni di indiscrezioni, di retroscena, come sempre, spesso non ci azzeccano, altre volte invece sì. Ritorna il Nazareno, Renzi, avete sentito, dice faremo le riforme. La riforma del Senato a settembre anche senza Forza Italia. Brunetta conferma, non c'è nessun retroscena, non c'è nessun patto, due eccetera eccetera. Però i giornali scrivono che invece è già pronto un accordo che riguarderebbe anche la riforma della giustizia. In tutto questo ci si mette Feltri a dare a Renzi del ferroviere. Ce l'abbiamo, lo risentiamo un pezzettino di Feltri? Nel centrodestra penso che il peggiore sia proprio Berlusconi, perché si veste come un tranviere, sempre con quella divisa, il doppio petto, con delle cravatte che e naturalmente si riferiva a Berlusconi. E se lo dice Feltri, ex ex direttore del giornale di famiglia di Berlusconi. È vero, non ci avevo mai pensato. In effetti, con quel vestito blu, Berlusconi sembra un po' un tranviere. Ancora Feltri. Bersani è una persona elegante e sobria, che anche quando è seduto ha un atteggiamento garbato, non alza mai la voce, non... è una persona elegante complessivamente, poi sì, può avere anche lui qualche cravatta che grida vendetta, ma complessivamente è un uomo elegante e anche molto colto, lo si capisce non tanto dalle battutine sui leopardi, però sì, quando fai una conversazione con Bersani, fai la conversazione con un uomo intelligente e preparato. Arrivava un treno. Noi ci siamo accaniti contro Roma e abbiamo delle ragioni, però se uno fa un salto a New York si accorge che è lo stesso, tant'è vero che la differenziata a New York si fa in quantità veramente irrisoria e il pattume viene esportato perché non riescono a smaltirlo. 800 24 00 24. Feltri che dice a New York la situazione dei rifiuti non è certo migliore di quella di Roma, anzi per certi aspetti addirittura peggio. Come la vedete? 800 24 00 24. Intanto, mentre torna a sventolare la bandiera americana a Cuba, un evento epocale sicuramente, in Italia invece siamo sempre alle prese con una vecchia, antichissima polemica, antica quanto il Palio di Siena. Torna il Palio di Siena, tornano le polemiche, manifestazione domenica degli animalisti contro il Palio, che tra l'altro non si sa se ci sarà perché forse piove. Torre! Lupa! Selva! Istrice! Vabbè, questo è uno dei momenti delle ritualità, che le contrade, l'estrazione dei nomi dei cavalli, eccetera eccetera. La polemica è sempre quella, ogni anno o quasi ogni anno muore un cavallo, e chi ha a cuore la vita degli animali questa cosa non gli va giù. 800 24 00 24. Del resto il Palio è una festa bellissima, come lo sono altre feste che hanno al centro gli animali, anche in altri paesi. Gioco, cari ascoltatori, questa sera vi vogliamo anche coinvolgere su questo. Allora, intanto la notizia, qualche giorno fa, ci avviciniamo a Ferragosto, domani è Ferragosto, strategie di sopravvivenza, però ve la mettiamo così. Un uomo di 71 anni, Aldo Braito, qualche giorno fa è sopravvissuto per 9 giorni sui monti, da solo, sui monti, sulle montagne trentine, mangiando radici e cortecce degli alberi. Non so se avete sentito questa notizia, una bella avventura finita bene, di quelle estreme, come è per esempio sopravvivere in città ad agosto, in questi giorni dove non c'è veramente nessuno, che è quasi andata meglio a lui forse, che almeno se ne stava in montagna al fresco anziché a morire di caldo in città. Allora vi chiediamo, cari amici ascoltatori, 800 24 00 24, le vostre strategie di sopravvivenza in questo agosto in città, soprattutto voi che non andate in vacanza, cose che si possono fare low cost, i picnic nei parchi, si può andare per esempio con la macchina fin sotto il Duomo perché adesso c'è parcheggio e magari si può andare a vedere i musei, ce ne sono gratis, e sicuramente nella giornata di Ferragosto ce ne sono tante. Raccontateci come state vivendo il vostro Ferragosto. Anche questa sera in palio la mini guida di Expo, edita da 24 ore cultura. Ancora tema immigrazione, però prima di chiudere questa copertina, vi ricordate la questione dei checkpoint sulle spiagge per controllare i Vucumpra, la proposta Silli di Forza Italia? Ne parla con Esposito del PD, che quasi quasi va oltre e dice: multe per chi compra da Vucumpra. Io checkpoint sono termini di guerra che evocano un, dai, chiamiamoli, un clima che peraltro chiamiamoli punti di controllo, ecco, in maniera... No, guarda, posso dirti con io penso che se si cominciasse ad avere la presenza delle forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, che cominciassero a multare anche chi compra, forse potremmo faremo un intervento serio. Multare chi compra i prodotti dei Vucumpra è possibile? A me sembra un po' una follia. 800 24 0024, uno non è più neanche libero di comprarsi un bandana a 5 euro sulla spiaggia che ti becchi la multa. Certo, c'è il tema del commercio abusivo, dell'illegalità da quel punto di vista, però non credo che il problema sia il bandana sulla spiaggia, questo io non credo. Chiudiamo con Borghi della Lega. Se la Chiesa tante volte vuol fare la politica, spesso rischia di sbagliare, così come la politica, se provasse a fare la Chiesa, farebbe ridere. Bisogna essere non ipocriti, un governo deve avere le palle di avere il coraggio di dire: io prendo, e al modico costo di un biglietto, facciamo la metà di quello che fa lo scafista, così ci guadagniamo pure, sale il PIL, mandiamo là la Tirrenia, la Moby, la Corsica Ferris, quel cavolo che vogliamo, e a costo di 700 euro biglietto li portiamo qua tutti. Siamo la tri di biciclette, siamo là e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, ma per suonare. Oh, come se gli animi non fossero già abbastanza surriscaldati sulla polemica per quanto riguarda gli immigrati in Italia, ci si è messa la storia di un assessore veneto, anzi un'assessora veneta, che si trovava in vacanza, ha subito il furto della bicicletta, si è incavolata, ha scritto un post su Facebook nel quale ha definito il ladro della sua bicicletta magrebino di M, beccandosi infinite accuse sul social network di razzismo. È con noi Elena Donazzon, buonasera. Donazzon, assessore, buonasera a voi. Assessore all'istruzione e alla formazione della Giunta regionale del Veneto. Mi sono permessa di fare due correzioni perché sul cognome tengo tantissimo, sì, quello della mia famiglia, da Donazzon. E assessore perché non sono femminista, quindi il titolo assessore, è titolo, va bene, sì, sì, sì, no, anch'io sto, no, ma al di là di essere femminista o no, credo che vada benissimo assessore. Senta, Donazzon, si è pentita di aver scritto magrebino di M? Intanto ho scritto di M con i puntini, chi pensa male fa peccato, sì. Vabbè, però cosa voleva dire? Poteva stare per mentone, visto che quei signori ci hanno detto che erano di mentone, ma siccome quei signori, sì, dopo che ci hanno rubato le biciclette, ci hanno detto tante altre cose in lingue straniere, ho preferito lasciar perdere. Dopodiché immagina come me, che si è trattato di uno sfogo, l'una di notte, dopo che mi sono trovata, sì, faccia a faccia, e capita con quello che le ha rubato la bicicletta, era incavolata nera, e questo è assolutamente comprensibile. Alto, anzi, adesso biondo, sì, non era? Né alto, né biondo, né con gli occhi azzurri, né parlava inglese o islandese. Sarebbe stato un attenuante, sì, se fosse stato biondo? No, probabilmente avevi scritto islandese di non so che città con la N esista in Islanda. Comunque lei non si è pentita di aver scritto quella frase, per cui è stata abbastanza criticata, questo sì. Sì, ma a onor del vero, guardi, 3.400 persone, cosa mai accaduta sui, sì, social, pur avendo fatto cose, diciamo, decisamente più belle, più significative, e con una onorata vita politica, no? Diciamo così, 3.400 persone hanno cliccato mi piace, e ad oggi, mentre stiamo parlando, sto guardando, sì, la pagina, siamo a 394.660 persone. Che cosa vuol dire? No, scusi, 390.000 persone hanno scritto mi piace al suo posto? No, 390.000 sono venuti a vedere il mio posto, e 3.400 hanno scritto mi piace. Perché purtroppo quindi ce ne sono 380.000 che non hanno detto mi piace pur avendolo visto. Però se vogliamo vederla da questo punto di vista, se vogliamo vederla così, sappiamo come funzionano i social, no? Quindi se qualcuno scrive mi piace, se mi piace, altrimenti fanno altro. C'è da dire che questo è un post che ha girato molto, segno, sì, che purtroppo non è un fatto accaduto solamente a me, devo dire che è, ahimè, una situazione che si ripete quotidianamente. Adesso le chiedo di raccontare bene che cosa è successo. Devo fare una, certo, piccola pausa per il traffico e poi ci racconta. Dove eravate, in Liguria? Eravamo a Sanremo, che San è una Remo, città bellissima, con una pista ciclabile fantastica. Tra un attimo, dopo il traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Siamo là, la tridi biciclette, siamo là, la, e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, sì, sì, ma per suonare. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in compagnia dell'assessore Donazzon, assessore all'istruzione della regione Veneto, che qualche sera fa, mentre si trovava a Sanremo, gli hanno fregato la bicicletta, ha scoperto il ladro, tra l'altro è riuscito anche a recuperare la bicicletta, ha scoperto che il ladro era magrebino, ha scritto magrebino di M sulla sua pagina Facebook, molti si sono congratulati mettendo mi piace. Ah, forse anche perché la storia poi era a lieto fine, nel senso che la bicicletta è riuscita a recuperarla. Altri hanno deprecato accusandola di aver utilizzato un'espressione razzista. Era l'una di notte, ha detto lei, era esasperata. Che cosa era successo? Ci racconta? Uscita dal ristorante, avevamo allacciato le biciclette come bravi cittadini che non si fidano degli altri alla ringhiera in una piazza centrale peraltro di Sanremo, che è frequentata in questo periodo. E tornati dalla cena, l'amara sorpresa, dopo una rabbia che insomma credo legittima, no? Un sconforto, certo. Abbiamo pensato che dove potessero essere le biciclette, era quasi mezzanotte meno un quarto. Siamo andati a chiedere a quelli che noleggiano le bici, vedono tutto, sanno tutto, insomma, possono aver mestiere. E con un piglio abbastanza deciso, il mio fidanzato è andato a chiedere, essendo lui molto legato alla propria bicicletta perché ha un certo valore, la mia invece è un legame affettivo, me la regalò mio padre quasi 30 anni fa, però andiamo a chiedere e questi visto anche la foga, ci hanno indicato di andare verso una zona dove sono presenti letteralmente dei tunisini che si occupano di spaccio, per cui capisce, una cosa assolutamente riconosciuta, direi quasi accettata, e ci hanno detto di andare a chiedere a loro, che avrebbero potuto darci qualche informazione in più. Il mio fidanzato si dirige lì, io rimango a fianco di questo nolo a guardare la pista ciclabile, perché avevo proprio la rabbia e come dire, quasi l'impotenza di stare a guardare. Mentre che aspetto il ritorno di Vittorio, vedo arrivare la mia bicicletta, perché la riconosco, perché c'è una scritta Gabrielli in giallo, sì. È un'aziendina di Bassano del Grappa, da dove provengo, che non c'è più. La sua bicicletta guidata da chi? Da un ragazzone bello alto, sarà stato un po' meno di 1,90 m, moro, di capelli scuro, di carnagione. Io potevo essere io sono così, No, io non l'ho mai vista, adesso la guarderò, sono un po' più basso. Sei un bel ragazzo, questo qui non era un bel ragazzo, d'accordo? Io piaccio. E allora poi darò un giudizio su di lei, se mi permette, però in privato. Benissimo, va bene. Bene. Blocco la bicicletta, la guanto e guardo e gli faccio, questa è la mia bicicletta, con fare anche deciso. Lui mi risponde in arabo, no? Sì. Io dico, scendi, questa è la mia bicicletta, e mi metto a gridare. A quel punto attiro l'attenzione anche di quelli del nolo, e ovviamente, insomma, in mezzo a sta ciclabile, questo prende e scappa di corsa, e il suo amico con una bellissima bicicletta da corsa bianca fugge in bicicletta. Non era la bicicletta del mio fidanzato, l'altra, noi avevamo due mountain bike. Segno che il primo era sulla mia bicicletta ed era il ladro, e l'altro sicuramente non era una brava persona, sarebbe fermato. A quel punto là io grido il nome del mio fidanzato facendolo ritornare da dove era. Una ragazza, una signora di Perugia, che ha visto tutta questa scena e questo trambusto, un film, un cortometraggio, e ci dà indicazioni che erano scappati in una direzione. Vittorio prende la mia bici, rincorre nella direzione presunta, ci fa dare la descrizione di queste persone, mi rincorre. Succede che questi signori molto gentilmente restituiscono le nostre anche l'altra bicicletta, sì, e torniamo a casa con le due bici. Arrivo all'1 di notte, stanca, era l'ultima giornata di ferie, eravamo vestiti, è stato criticato il mio fidanzato in effetti, ha un paio di braghettine orribili, visto che prima sentivate scelte con i tranvieri, pare che sì, i tranvieri vadano, era peggio del tranvieri, l'ho vista la foto in effetti, sì, sì. Esatto, no, andrebbe bene, è molto più bello e molto più elegante di come si vede in fotografia. Tuttavia, insomma, arrivo all'1 di notte e sfogo con consapevolezza, sì, vuole sapere la verità, sì. Perché mi sento un italiano medio, arrabbiato, a cui io non uso le parolacce, per cui non le scrivo nemmeno perché ho pudore. Quindi chi vuol pensare male pensa. No, infatti, no, però lei adesso non nascondiamoci dietro un dito. Magrebino di M vuol dire magrebino di merda, non è che ci l'ha si possa. L'ha pensata lei, io non l'ho detto e non l'ho scritto. Cosa voleva dire? Mi scusi, ha detto che ha scritto con consapevolezza, quindi è consapevole di scrivere con che consapevolezza tutta la descrizione. Sì, no, va benissimo, ma l'espressione adesso non nascondiamoci dietro un dito, perché uno non può. Non mi nascondo dietro un dito, sì. Avrei scritto una parolaccia se avessi voluto scrivere una parolaccia. Cioè, non ha voluto scriverlo perché non ha voluto, diciamo, andare processo le intenzioni. No. Se ho capito, lei non ha voluto scrivere la parola completa per non essere volgare, diciamo, dal punto di vista di quello che stava scrivendo, però l'intenzione era quella. Ma se sale in processo le intenzioni, probabilmente l'intenzione era tanta rabbia, sa? Sì. Tanta rabbia. Il giorno dopo ho scritto, infatti, che alle anime belle che si sono scandalizzate, volevo dire che ero molto arrabbiata e lo ripeto. Dopodiché chi ruba è un bastardo. Credo che sia una situazione allucinante che io non possa lasciare la mia bicicletta, la mia macchina, la mia borsa da sport, la mia ma questo iPad è fuori discussione, lei ha tutta la mia solidarietà, anzi anch'io sono un mezzo ciclista, per cui sa quante biciclette mi hanno fregato a Milano, credo è più di 10, è una cosa che non va bene. E non so chi me l'ha fregata, perché non ho avuto, diciamo, forse né il coraggio né la possibilità di andare a recuperare. Lei non si è molto arrabbiato. Mi sono incavolato moltissimo. Non ha pensato le cose più brutte. Visto uno biondo che girava con la mia bicicletta, forse avrei potuto dire che guarda che biondo di M, può darsi. Il punto però che le voglio domandare, a questo punto glielo richiedo, non si è pentita? Perché le faccio la domanda completa. Un cittadino magrebino normale, per bene, che paga le tasse, che lavora, sta in Italia da alcuni anni, eccetera eccetera, potrebbe sentirsi offeso da essere associato a quell'espressione? Ma io ho parlato di quello che ho fermato e non ho neanche, come le ripeto, detto di più o in maniera, come dire, specifica. Io parlo di quello che ho affermato, che ho riconosciuto, non era né genovese, né sanremese, né bastanese. Era uno straniero dalla nazionalità non identificata. Sì, però scusi, lei è anche assessore all'istruzione. Lei è anche assessore all'istruzione, adesso non mi faccia sì, fare la cosa. Sono una cittadina italiana facile, arrabbiata. Sì, però scusi, sì. Beh, è troppo facile. Se io dico italiano di merda, sai cos'è che non fa più chiunque notizia, italiano, è la chiunque italiano potrebbe no, prendersela. No, ce lo facciamo no. dire. Ce abbiamo il coraggio dire. Di usciamo da questa ipocrisia. Mi sono fermata prima in un bar, sì. Io, dove sono arrivata per una convegno di lavoro, e no, il barista mi ha detto: "Ieri mi hanno ragione, dato un italiano che... di sì. merda, no? Era uno straniero, questo barista mi ha dato piena solidarietà, no? Va da sé, ovviamente. Ma certo, chi vuole che le dica che non le dà solidarietà sul fatto di che gli hanno fregato la bicicletta e che quello era un ladro, caro, di M. Avesse lei, scritto lei ladro di chiamato, merda, io avrei detto no, non c'è no, niente no, da dire. Lei mi ha chiamato non perché sono stata una giovane donna, giovane, 43 anni, donna coraggiosa. Siamo coetanei, giovanissima. Sì, allora siamo giovanissimi, molto belli entrambi. Che ha fermato una bicicletta per strada con sopra un energumeno che poteva tirare fuori un coltello. No, lei mi ha chiamato perché mi sono sfogata l'una di notte, ma non lei, povero, lei fa il suo mestiere. Sì. Tutti i giornali del Veneto, cioè, la notizia non è che l'assessore Elena, giovane donna, fragile, ferma in bruto con la propria bicicletta. No, non è così. È che mi sono sfogata e ho detto una cosa che probabilmente pensa la maggior parte di quelli che hanno subito un furto e che magari hanno pur immaginato, io invece l'ho colto in flagranza di reato. Hanno ma io lo posso anche pensare, però io mi aspetto da un assessore, forse mi sbaglio, no, però, non deve, che non lo scriva, che non lo scriva, non che non lo pensi o che non gli venga distinto, perché verrebbe credo a chiunque, però sono a mente fredda non io forse santa, non l'avrei diceva scritto. Una canzone straordinaria. Ma scusi, però le giro la domanda: se fosse stato uno che non un magrebino, fosse stato uno biondo con gli occhi azzurri, cosa avrebbe scritto? Se mi parlava in inglese avrei scritto inglese, se mi parlava in francese avrei scritto francese. Avrebbe scritto francese di M? Si sente molto accerchiata dai francesi? No, lei sta facendo il processo all'intenzione. No, non lo so. Oggettivo, sì. C'è un fatto oggettivo. Perché lei sta facendo un processo all'intenzione? C'è un fatto oggettivo. Sì. Esco dalla cena, leggo la mia bicicletta. Pago regolarmente la cena con carta, con bancomat, tracciato. Vado a prendermi la bicicletta, non la trovo più, mi gira l'anima. È la mia vacanza. Becco il poverino, facciamo così. Però lei fa finta di non capire. Se io adesso sto ascoltando l'assessore Donazzane, sono un cittadino veneto, ma anche magrebino, e sono una persona per bene, potrei o non potrei offendermi se lei dice magrebino di merda? Non ho rubato la mia bicicletta, io stavo riferendomi a quella persona sopra la mia bicicletta. Non ho fatto un processo, non ho accusato in maniera generale, generica. Avrebbe dovuto scrivere quel magrebino, forse. Allora, adesso guardi, diventa un esercizio di grammatica, ma non voglio entrare in questo. Stiamo facendo l'analisi logica, grammaticale, non so, della sintassi, cosa possiamo fare? Ancora? Però lei l'ha detto, l'ha scritto con consapevolezza, ha scritto anche camerata riferito al suo compagno. Perché ha usato questa espressione? Non è un compagno, è il mio fidanzato. Al suo fidanzato. Non ah, giusto, giusto. Ha usato l'espressione. questa la è buona. Fidanzata? Trottolino amoroso, cuccettina, micciolino. Certo non camerata, cioè, certo non camerata. Il mio fidanzato lo chiamo come voglio. De gustibus, non è un riferimento certo, fascistizzante così, no? Perché camerata non è una cosa che si usava. Ma scusi, anche lì, ma stiamo facendo il processo a questo? Parliamo della parola camerata? Sì, parliamo della parola camerata. Perché l'ha usata? Lei mi ha telefonato. Ma perché io chiamo così il mio fidanzato? C'è qualcosa che non va? No, è una curiosità, glielo chiedo. Lei mi sta rispondendo. Secondo me qualcosa di strano. Forse capirei di più trottolino, cucciolo che camerata. Però, per carità di Dio, de gustibus. De gustibus, certamente. E patriota ha usato anche questa espressione. Vabbè, patriota, non c'è niente di strano, patriota allora, non lo può usare. Me la prova, va bene, che altra parola scegliamo? Gliela provo, però le chiedo, torno al marocchino. Sta facendo l'analisi del testo, sì, vabbè. Allora facciamolo bene, dai, avanti. Le chiedo, un magrebino integrato in Italia con permesso di soggiorno che paga le tasse, può essere un patriota? Può essere un patriota? Anche lui? Ma certo che sì, ci mancherebbe. Anzi, deve esserlo, io credo che tutti noi dovremmo scoprire di più l'amore per la nostra nazione, per la nostra terra è un po' di sano orgoglio. Primo tra tutti quello di rispettare le regole dove si vive, che sono le regole della mia nazione e della mia terra. Quindi in questo caso lei capirà che rubare, diciamo in generale, in altre parti del mondo tagliano le mani, mi pare di ricordare. Qui siamo molto civili, anzi abbiamo deciso che diamo per scontato che le nostre biciclette non possono stare assolutamente parcheggiate. Io infatti mi sento patriota perché vivo in un paese come questo e questo penso di condividerlo anche con lei. Bravo, grazie. Allora lei mi ha in questo momento mi ha dato la soluzione con formula quasi piena. No, non faccia la vittima. Ti ricordi che sono una giovane donna che ha bloccato un energumeno molto più grande di lei. Complimenti, assolutamente complimenti. Lei e il suo fidanzato siete anzi quasi da ingaggiare come, non lo so, guardie private. No, ci hanno provato, ci hanno detto una mia amica che abita a Padova, una persona molto per bene, una giovane donna che è costretta a stare barricata perché abita purtroppo in zona stazione, perché la sua famiglia purtroppo aveva comprato casa tanti anni fa, mi ha detto se potete passare qualche volta di qua, ridendo, no? Magari ci date una mano. Perché bisogna smetterla di avere paura, purtroppo viviamo in una condizione di insicurezza. E guardi che lo dico, sa perché fa questo shock? Perché sono l'assessore regionale del Veneto, che è un po' più un megafono della signora Maria a cui hanno rubato la bicicletta magari ieri. E la povera signora Maria a cui hanno rubato la bicicletta magari ieri si è sentita da me un po' riscattata. Dico solo che dall'assessore all'istruzione del Veneto mi aspetterei che fosse in grado di distinguere tra magrebino e quel cittadino di nome Mohamed che può essere un ladro di merda. Questo io me lo aspetterei, continuo ad aspettarmelo. Lei ha detto la sua, che dobbiamo fare? Io la ringrazio tanto per essere stata. Poi dirò quello che dovrò dire, d'accordo? Quindi pentita, si può dire che un po' si è pentita? No, per niente, perché tutto questo polverone è servito ad alzare un po' l'attenzione sul fatto che ci sentiamo tutti vittime di tanta insicurezza. E guardi, lo dice gente di Sanremo, che sì. Io vado lì in vacanza da diversi anni. Negli ultimi anni, soprattutto dopo Mare Nostrum, la situazione è esasperata. E tanti stabilimenti erano vuoti. Purtroppo le scene di Ventimiglia sono state riportate ovunque. E il problema oggi dell'insicurezza e del numero di reati denunciati è triplicato in quelle zone là. Quindi va bene, forse adesso ho acceso l'attenzione, magari voi li occuperete anche di questo. Grazie, devo dare la linea alla borsa, grazie mille. A lei, grazie. Se li buonasera. Porterà pure lei a casa sua, va bene. Sono una donna, non sono una santa, diceva una canzone straordinaria. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24. Cominciamo con i vostri interventi. Andiamo con Eliseo che ci chiama proprio da Siena, città del Palio. Eliseo. Buonasera. Buonasera. Buonasera Alessio. Io quando nascerò. Rinascerò, vorrei nascere cavallo del Palio di Siena. Perché? Sì, perché il cavallo del Palio di Siena è trattato come un re, come un principe. Perché? Hai capito? Sì, ho capito, perché? Ce lo racconti un po'? Ma perché sì, perché innanzitutto a marzo iniziano le visite. Le previsite, sì. Poi le visite. Ma che visite? Visite mediche? Visite mediche? Che visite? Non ho capito che visite, cosa vuol dire iniziano le visite? Le visite mediche? Certo, le visite fatte dal veterinario, che è il veterinario del comune, sì. Che portano i cavalli a fare le visite. Arrivano sani alla corsa nella quale possono morire, perché ogni anno circa ne muore qualcuno. Ascolti, innanzitutto... che non è assolutamente vero e tutti gli anni ne muore qualcuno. Non è vero, scusi, non è vero che lei è di Siena, ne sono morti una cinquantina circa dagli anni 70 ad oggi, questo è quello che abbiamo allora, letto. Allora, siccome cinquantina da 70 è già un anno, una volta per anno, non è vero. Un po' meno, poi, sì. Voglio dire, quando ci andate mai voi a vedere un allevamento di tacchini... Poi quelli è lavoro che muoiono all'ippodromi, quelli vanno bene. No, che cosa vuole che le dica? Io guardi, non sono mica animalista da questo punto di vista. A me il Palio piace, io sono venuto a vederlo, io lo farei fare sempre. E anzi, se posso torno anche a vederlo, Eliseo. Quindi Però forse se è una, non si capisce se è una corsa o se è uno spettacolo nel quale, diciamo, la morte del cavallo fa parte dello spettacolo, perché no, assolutamente non fa parte dello il rischio, spettacolo, il rischio a volte la morte del cavallo, il rischio forse perché è successo, anche i Fantini sono rimasti paralizzati, sì. Non rischiano anche nessuno. I Fantini, assolutamente. Va bene, Eliseo, insomma i cavalli vengono trattati bene. Ascolti, io vorrei, nella prossima vita, vorrei fare il cavallo del Palio di Siena. Glielo auguro, grazie Eliseo. I buddisti credono nella reincarnazione, quindi lei potrebbe, rinascere. Sono buddista. No, glielo dico perché è così, per cultura generale. Vuol dire... Sì, grazie, buona serata, grazie. Sauro da Lucca. Buonasera e congratulazioni per la trasmissione. Io volevo fare due considerazioni sull'immigrazione, anche perché sono da 10 anni ho lavorato nella protezione civile per l'area d'accoglienza. Allora, la prima considerazione riguarda l'Italia 6 mesi fa invasa da gli immigrati, invasa dai barconi. Noi che battavamo i pugni ai tavoli europei e nessuno ci ascoltava. Poi un mese fa arrivano gli immigrati che cercano di salire sui treni per arrivare in Francia o attraversare il canale della Manica per arrivare in Inghilterra. L'Inghilterra e la Francia si arrabbiano, chiedono all'Italia e agli altri paesi di intervenire e tutti li ascoltano. Questo vuol dire che noi non siamo in grado, come governo italiano nel Parlamento europeo, di farci sentire. Gli altri sì, noi no. Questa è una considerazione di fatto. La seconda considerazione che volevo fare, molto importante, è: non c'è da arrabbiarsi o diventare un'Italia razzista per quello che sta avvenendo. Si deve operare come? Con un cuscinetto laggiù dove c'è la guerra, con gli immigrati clandestini, con gli immigrati che devono regolarmente essere ospitati dalle altre nazioni, sì, con dei campi profughi dove verranno schedati, verrà vista cosa sanno fare, che titoli di studio hanno, laureati, medici. Sauro, guardi, questa cosa qua la dicono in tanti. Adesso c'è, sembra che ci sia anche una missione. Non è così facile, perché se fosse così facile forse l'avremmo già fatto. C'è una missione, credo, del governo, l'ha annunciata il sottosegretario Manzione qualche giorno fa, che prevede proprio una presenza anche dell'Italia in Niger, da questo punto di vista. Vedremo. Io non ci metterei come Italia, perché come Nazioni Unite sarebbe molto diverso, come ha fatto l'America in altri paesi. Sono degli stati cuscinetto che permettono l'ingresso a chi e l'ingresso a che cosa. Va bene. Questo ci aiuterebbe molto. Grazie Sauro, buona serata e buon Ferragosto. Adesso cominciamo con il buon Ferragosto, aspettiamo anche le vostre strategie di sopravvivenza in città, così da raccontarci un po' come vi apprestate a vivere queste giornate particolari, soprattutto chi rimane in città. Mauro da Udine, buonasera. Sì, Alessio, buonasera, salve. Io faccio un intervento con tre prospettive. La prima, un saluto a chi voleva rinascere, se fosse rinato, cavallo. Ha detto voleva rinascere come cavallo di Siena, no? Nella prossima vita vorrei fare il cavallo del Palio di Siena. Gliela dedichiamo, vedi? Io dico invece che probabilmente nascerà come asino del Palio di Siena, perché ovviamente lì c'è una volontà di mantenere quella curva killer. Io sono animalista e posso assicurarvi che chi ama gli animali, quando vede il cavallo che si spezza la zampa e che deve essere abbattuto, il cuore si infrange. La curva killer è quella all'angolo della piazza. Cambiassero il percorso, si sono ostinati con quel percorso, e quindi è lì che avviene quasi sempre. Io faccio pure sport pericolosi, cioè ho fatto pugilato, e ho visto che quando si fanno cose di questo genere si guarda sempre comunque dal danno, magari si per migliorare, no? E invece questo non è avvenuto, non avviene, perché io ho conosciuto un po' di gente di Siena, no? E lì entro nel discorso successivo. Tra quartieri si scannano, Sì, in Italia c'è un'ipocrisia mostruosa per quello che riguarda, tra virgolette, il così chiamato razzismo, no? Io esprimo per intanto la solidarietà a quell'assessore, perché purtroppo devo dire anche questo, no? Quando una persona ha offeso e ha detto magrebino di merda, l'ha detto in un contesto che gli stava rubando la bicicletta. Sì. Probabilmente sì, se no, avesse conosciuto il cognome e il nome, avrebbe detto Antonio Francesco e non è magrebino, è la prima cosa che poteva conoscere. Nella stessa maniera io dico che in Italia si deve togliere il pregiudizio, o meglio, anche sotto il profilo concettuale, bisogna dire cose come stanno, c'è una sorta di ipocrisia, Alessio. Il problema è che non si dicono le cose per come stanno. In Italia, no, ma guardi, scusi un attimo, Mauro. Uno può dire che ci sono troppi immigrati, che bisogna fermarli alle frontiere, puoi dire tutto quello che vuoi e non c'è nessun problema. Sicuramente è una questione che va gestita meglio, quella dell'immigrazione in Italia. Assolutamente. Ma se dici magrebino di merda, non stai dicendo una cosa, come dire, finalmente ci liberiamo e diciamo una verità. Stiamo dicendo una cazzata razzista. Quello che voglio dire io sono convinto che tu, se tu estrapoli quello che ha detto l'assessore dal contesto, è chiaro che viene fuori così. No, ma non è questione di contesto. Ma io infatti di merda io sbaglierei. Ma io gliel'ho chiesto 4 volte se si è pentita ex post, diciamo, di quello che ha scritto, perché lo ha scritto, non è che è stato detto, è stato scritto e è stato confermato. Lei in parte alla fine ha detto che la prossima volta forse ci penserà e scriverà quel signor magrebino di nome Mohamed che mi ha fregato la bicicletta di ieri di merda. E questa sarebbe un'affermazione che non ha nessun tipo di non è contestabile da nessun punto di vista, capito? L'ha detto lei, per cui comunque Mauro, che dobbiamo fare? Sei incazzato. E tu lo chiami con la prima nota identificativa, sì. Non è razzismo. D'altronde se tu vai fuori all'estero non è che ti chiamano Mauro Antonio Chirizzi, oppure ti chiamano ma infatti italiano, tu ti incazzi da morire Chirizzi, quando ti chiamano italiano di merda ti incazzi o no? Sì, questo sì, è il punto. Allora se si incavola lei si incavolerà anche il magrebino onesto. No, ma per questo motivo bisogna vedere il contesto. Se io sto rubando e mi non chiamano c'è contesto, non c'è contesto, non di c'è merda contesto. Mafioso. No, è un discorso diverso se invece io sto facendo, mi sto presentando come commerciale, sto vendendo magari un prodotto italiano, no? Sì. E senza farmi parlare mi dicono no, noi con gli italiani di merda non abbiamo a che fare. Sono due profili diversi, Alessio. Cioè, se l'assessore avesse trovato il signore per strada e gli avessi apostrofato magrebino di merda, allora sì, avrebbe torto. Ma se in questo contesto quello è andato in una situazione dove c'era spaccio, dove c'era una situazione pericolosa, voglio dire, per forza di cose gli è venuto fuori perché non sapeva altrimenti come dire, no? Voglio dire, questo è il problema. Va bene, Mauro, io ho estrapolato quella cosa là e ho detto quello che penso. Dopodiché poi tutto il resto, il racconto che ha fatto l'assessore Donazzan sul fatto che poveraccia le hanno fregato la bicicletta, addirittura se l'è andata a recuperare lei, questo è tutto benemerito, è stata brava assolutamente, non ha neanche chiesto aiuto ai vigili urbani, ha fatto tutto da sola e quindi complimenti da quel punto di vista all'assessore Donazzan, assolutamente, se vuole che dica questo. Su quella frase lì resto della mia opinione. Grazie Mauro, buona serata, traffico. Nella prossima vita vorrei fare il cavallo del Palio di Siena. Io dico invece che probabilmente nascerà come asino. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Torna il Palio e tornano le polemiche immancabili. Questa volta però gli animalisti hanno intenzione di farsi sentire, di far sentire più forte la loro voce, perché c'è una manifestazione indetta proprio lo stesso giorno del Palio, una cosa che non era mai successa a Siena. Ecco noi l'assessore al Palio, Paolo Mazzini. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto le voglio chiedere, ma il palio si farà? Perché avevamo letto che forse causa pioggia poteva essere rimandato. Domenica sarà una giornata bruttissima, pare, su tutta Italia. Dunque, il palio si fa sempre, è stato sospeso solo in caso di guerra, per cui se piove lo rimandiamo. Sì, beh, certo, si farà, ma non si potrebbe non tenersi proprio domenica, questa è la, diciamo, la domanda. Naturalmente sì, perché se piovesse tanto per rendere la vista insicura o impraticabile, bisogna aspettare che il tufo si asciughi e quindi rinviarlo di giorno in giorno. Poi il tufo, perché? Il tufo, sì. Perché sì, in terra c'è il tufo. Sì, è tufo. La pietra è tufo. Poi ci... no, la pietra è sottostante, sì. Quella che c'è tutti i giorni, per il palio viene spesso questo il tufo. Manto di tufo, esatto. Ecco, però c'è la manifestazione, quella degli animalisti, questa si è stata autorizzata dal questore proprio lo stesso giorno. Sì, diciamo che è preposto a concedere l'autorizzazione alle manifestazioni, quindi appunto il questore ha risposto affermativamente alla richiesta, sì, che gli era stata formulata, e diciamo il comune ha messo a disposizione uno spazio cittadino in cui non erano previste altre, quindi, manifestazioni o altri eventi in un giorno piuttosto particolare. Lontano, abbiamo letto, da dove si svolge il palio, cioè volete evitare che ci possa essere un contatto di qualche tipo, potrebbe creare situazioni, preoccuparvi un po' questa manifestazione? Ma, sarò sincero, per il palio in Piazza del Campo e negli immediati dintorni ci sono alcune decine di migliaia di persone, tra senesi, turisti, appassionati, eccetera eccetera. È un'atmosfera sicuramente molto emozionante, e quindi diciamo, come tutte le cose ancestrali che si rifanno ai sentimenti profondi dell'uomo, suscita alle volte anche reazioni forti, e quindi può diventare anche una questione di ordine pubblico, di tanto che voglio dire, del palio è un affare complesso che vede il coinvolgimento appunto delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, del soccorso medico, eccetera, eccetera. E naturalmente, ecco, è impossibile pensare la compresenza di qualunque altra manifestazione in un raggio tale da mettere in crisi questo sistema. Senta, ma chi manifesterà domenica? Gli animalisti? Non so a quale parte, se la più estrema sia, probabilmente saranno quelli più duri e puri. Che cosa chiedono? Perché c'è chi chiede che ci sia una vigilanza ancora maggiore sulla corsa, sulla salute dei cavalli. C'è chi invece vuole proprio che il palio non ci sia, perché non ogni anno, però insomma spesso ne muoiono, no, di cavalli, succede abbastanza spesso. Dunque, sono sincero, non è che seguo molto le rivendicazioni degli animalisti, perché mi sembrano dettate da una volontà di imporre una visione assolutista delle cose, senza cercare di comprendere che il palio è una cosa che si fa da circa 500 anni, che si è evoluto nei secoli, si è evoluto anche negli ultimi decenni, nel senso di una maggiore attenzione a tutti gli aspetti che riguardano il cavallo, quindi la sua preparazione, il suo, ecco, addestramento. Ma appunto, però, assessore, questi aspetti che riguardano, diciamo, la cura degli animali, anche da quel punto di vista lì, li avete portati avanti anche collaborando con le associazioni animaliste, oppure proprio non c'è nessun tipo di dialogo mai con queste associazioni? Per quanto vi riguarda, senta, sono sincero, se c'è una collaborazione è con i soggetti preposti a questo, quindi con l'ASL, quindi con il Ministero, e ovviamente Siena è una città che fa parte della Repubblica Italiana, e quindi diciamo, come in realtà è sempre successo, il palio come corsa in sé, perché poi il palio è tante altre cose tutte insieme. Ovviamente si adegua ai tempi, e un senese del 1850 avrebbe trovato molto diverso anche il palio del 1950, proprio perché le cose cambiano per tanti motivi. In questo adeguamento alle sensibilità, ma io direi anche alle tecnologie moderne, c'è anche tutta una parte che riguarda, come dicevo appunto, l'addestramento, l'allenamento, lo sviluppo diciamo, delle capacità atletiche dei cavalli che fanno il palio, perché comunque sono dei cavalli da corsa, e poi anche tutta una serie di accorgimenti per salvaguardare al meglio possibile la salute dei cavalli, dei fantini, e quindi sia come prevenzione sia come intervento successivo. Però la famosa curva killer, no? Quella non è, non, che è lì dove poi succedono gli incidenti, non è messa mai in discussione, cioè deve rimanere così com'è. Diciamo, il palio si fa in Piazza del Campo, come dicevo, da quasi 500 anni, e quindi si fa lì, non è previsto altro. Diciamo che sono stati fatti degli interventi, tutte queste evoluzioni di cui lei diceva, degli interventi, però non prevedono un cambiamento del percorso, che in quel punto è pericoloso, perché succedono sempre. Ma in realtà, guardi, l'ultimo incidente si è verificato prima della curva, perché c'è stato, diciamo, un contatto tra due cavalli proprio prima di arrivare in curva, quindi in un tratto pianeggiante, per cui così come succede negli ippodromi, dove i cavalli si infortunano nelle vetture, così, diciamo, in ogni momento possono essere sollecitati in maniera negativa. Però, sì, come accade anche, questo va detto, anche in altre gare di animali, di cavalli, nelle corse, si possono fare male anche i fantini, perché succede, quindi da questo punto di vista... Sì, sembra ci sia, sull'incidente fantini sì, sembra ci sia meno attenzione. È vero, assolutamente. La mattina del palio c'è una messa data dall'arcivescovo della città che invoca la benedizione anche su di loro, quindi... Diciamo che ci sono anche altri accorgimenti. Gli animalisti, insomma, le direbbero, e su questo potrei anche dargli ragione, che il fantino decide di salire sul cavallo di sua iniziativa. Il cavallo probabilmente ci viene portato, ecco, questa può essere la differenza. Però Ma chi ha a cuore le vite umane, il fatto che il fantino si metta in ballo e rischi la sua vita ha un significato sicuramente, diciamo che pareggia un po' i conti. Sì, diciamo che i fantini effettivamente sono dei soggetti un po' borderline, su cui c'è anche un'ampia letteratura, però ecco, se gli animalisti magari, insomma, si fossero mai interessati alla storia del palio, avrebbero scoperto che ci sono stati tanti cavalli che hanno corso fino, diciamo, all'età massima a cui era possibile, quindi fino a 14 anni, e che, come è stato testimoniato da molti, hanno sempre mantenuto vivo il ricordo della piazza, tanto che quando ci sono stati portati, che appunto non erano più nelle capacità di correre, hanno dimostrato inequivocabile che avevano una memoria, diciamo così, positiva di quello che era stato il loro passaggio di lì. Sì. Non vorrei fare troppo romanticismo, però... I cavalli sono animali che sono abituati a correre insieme all'uomo da qualche millennio, e assolutamente, certo, alle volte tra i due esseri viventi, quindi il cavallo e il fantino, si stabiliscono dei legami molto più forti di quello che si pensa, e quindi ricondurre la natura del cavallo solo al pascolare nei campi mi sembra un po' riduttivo. Io personalmente sono stato una volta, è uno spettacolo che mi ha appassionato, mi piacerebbe anche rivederlo. Noi la invitiamo, grazie, si può ancora venire? Come, c'è ancora posto? Com'è? Non ricordo, ci sono dei biglietti? Sì, ci sono. Allora, il palio è una manifestazione un po' particolare, perché sì, c'è l'accesso libero e gratuito alla parte centrale, dove chiunque si può presentare e quindi partecipare in maniera assolutamente nell'arena, gratuita, stare nella piazza, e lì sì, l'ingresso, diciamo, è fine esaurimento posti in qualche modo. Poi ci sono le tribune. Poi ci sono le tribune che sono a pagamento. E poi se c'è ancora qualche posto libero per il palio di domenica sulle tribune? Penso di sì, perché poi le tribune sono gestite da soggetti privati. Poi se, diciamo, l'ospite dimostra interesse e voglia di comprendere quello che sta avvenendo, anche il comune invita le persone a vederlo. Cioè, questo sarebbe, come dire, al contrario, sarebbe un disincentivo a chi vuole venire solo a protestare, questo mi sembra chiaro. Però... Ora, io il palio è una cosa che ha affascinato poeti, pittori, letterati, uomini politici, cittadini semplici, turisti, di tutto il mondo, di tutte le razze, di tutte le religioni. E perché, ripeto, è una cosa che si rifà alcuni elementi ancestrali nell'uomo. Alle volte si pensa che il palio sia solo la corsa, che poi effettivamente si risolve in un minuto e 15 secondi.

bisogna essere non ipocriti, uno deve, un governo deve avere le palle di avere il coraggio di dire io prendo e al modico costo di un biglietto, facciamo la metà di quello che fa lo scafista, così ci guadagniamo pure, sale il PIL, mandiamo là la Tirrenia, la Moby, la Corsica Ferris, quel cavolo che vogliamo, e a costo di 700 euro biglietto li portiamo qua tutti. Un paio di tweet sull'intervista all'assessore Donazzan, l'assessore all'istruzione del Veneto, che avete sentito, dopo il furto della bicicletta a Sanremo qualche sera fa ha ripescato chi gli ha fregato la bicicletta, lei e il suo fidanzato, e poi su Facebook ha scritto magrebino di M, apriti cielo, una serie di reazioni, accuse di essersi espressa in modo razzista. Lei ha detto alla fine quasi quasi sì, la prossima volta forse dirò quel signor Mohamed magrebino che mi ha fregato la bicicletta di M, e quindi un po' ha corretto la rotta. Allora abbiamo chi, proprio Lella 60 su Twitter mi dice: volevo dire alla signora assessore che a me hanno rubato 4 bici davanti all'ufficio, secondo lei cosa dovevo fare? Glielo chiediamo la prossima volta. Invece abbiamo Giovanni Cunico che dice: sarebbe bello che Elena Donazzan si arrabbiasse con la stessa foga verso i suoi ex colleghi ladri in regione. Sono una donna, non sono una santa, diceva una canzone straordinaria. On the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancor di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach, on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. Hanno preso di mira i nostri mari, in particolare l'Adriatico, però non sono tossiche, non c'è da aver paura per le alghe che stanno popolando purtroppo in molte zone il mare Adriatico. E ne parliamo con Carla Rita Ferrari, responsabile della struttura oceanografica Daphne. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, teniamo sotto controllo queste alghe, cerchiamo di capire, perché qualche giorno fa erano state avvistate soprattutto in Puglia, adesso noi siamo sulla riviera romagnola. Dove stanno in particolare queste alghe? Allora, quelle che voi vi riferite in Puglia, noi abbiamo la fortuna, per fortuna, di non averle nella nostra costa. È una situazione un po' particolare, perché queste alghe, queste microalghe potenzialmente tossiche, sì, non si manifestano né nella costa veneta né nella costa emiliano-romagnola. E invece in Puglia sì, Puglia, Toscana, Liguria. Accidenti, anche in Toscana avevo saputo, anche in Liguria? Sì, un po' anche in Liguria. Però non è corretto che io vada a raccontare. No, vabbè, però visto che insomma, in Italia. Visto che lei è responsabile della struttura oceanografica, esatto, quindi un'idea, diciamo, ce l'avrà. Però ci parli prima di tutto invece di queste alghe che non sono tossiche, non fanno niente, però magari non sono belle da vedere. Dove le troviamo? In che zona? Ma guardi, di queste allora, se vuole che mi soffermi su queste alghe potenzialmente tossiche, in realtà sono delle microalghe che non sono visibili, fanno solo una patina e si trovano dove ci sono delle scogliere, delle rocce, quindi queste si attaccano su questi substrati. Noi in Emilia Romagna teniamo comunque sotto controllo l'eventuale presenza, perché continuiamo a dire prima o poi, ma speriamo mai arrivino in Emilia Romagna, quindi perché si possono spostare, il bacino è unico, la massa d'acqua è unica, le correnti ci sono da nord a sud, quindi teniamo sotto controllo. Le vostre di alghe invece ce le vuole descrivere come sono, a vederle proprio? Benissimo, guardi, allora noi il problema della costa emiliano-romagnola è di avere delle fioriture microalgali, significa che sono delle microalghe che non sono visibili a occhio nudo, ma quando sono presenti milioni e milioni di individui per litro mi alterano la colorazione dell'acqua, rendendola verde, marrone, a seconda della specie algale che si presenta. Non verde smeraldo, non quel bel verde che uno si immagina, un altro verde. No. Quel colore non l'abbiamo ancora visto. Ecco, però è ovvio. Però non fanno nulla, non fanno male. No, anzi, devo dire, allora fanno hanno bene, il lato, hanno, no, non dico una cosa così, al lato positivo e negativo, sì, una condizione eutrofica. Allora, intanto è la base alimentare per il pesce. Ok, quindi nutrimento per i pesci. Quindi nutrimento per i pesci, e quindi mi aiutano a rendere più produttiva l'area di mare, quindi avere delle fioriture microalgali mi rendono più produttiva per la pesca. È un mare pescoso, esatto, e anche per le coste, perché sappiamo bene che gli allevamenti di coste che sono presenti in Nord Adriatico hanno una crescita maggiore in tempi molto ridotti rispetto a un mare pulitissimo che è detto smeraldo, ma perché però non contiene fitoplancton. E qui quindi siamo all'aspetto positivo dell'alga. Questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è si verifica in questa stagione, perché quando queste microalghe, che sono poi sostanza organica, finiscono il loro ciclo vitale, perché sono degli organismi, sì, mi decadono sul fondo, queste mi vengono degradate, sì, e la degradazione avviene consumando dell'ossigeno che è presente sullo strato di fondo, proprio a ridosso dei fondali. Ecco quindi che io mi trovo una zona un po' critica a ridosso dei fondali, sì, quindi parlo dell'ultimo metro di profondità, in cui ho poco ossigeno e gli organismi che vivono lì, soprattutto quelli a stretto contatto del fondale, e quindi i molluschi in particolare, sì, soffrono. E che succede? E succede che muoiono. Se si protrae per troppo tempo questa condizione anossica, viene detta quando non ho ossigeno, per molti giorni, questi soccombono. Il pesce, quelli che riesce a nuotare, ovviamente si allontana dall'area, sì, quelle che purtroppo vivono fissi nel sedimento soccombono. È un peccato, sta succedendo questo in questi giorni? Sì. Un po' sta succedendo, sì. Sì, e non si può fare nulla per purtroppo impedirlo? Purtroppo non si può fare nulla, ma sono troppe alghe, è difficile intervenire. Ma non è, devo dire la verità, ha contribuito principalmente in questo periodo il grande caldo. Noi sono giorni che abbiamo temperature molto elevate dell'acqua, anche al largo, perché si avvicina ai 30 gradi. Quindi diciamo la causa della formazione di queste alghe, possiamo dire che una concausa è il caldo, la temperatura. Sì, di sicuro il caldo favorisce la crescita. Sono comunque fenomeni naturali, cioè siamo nell'ordine. Fenomeni naturali, la cosa certa che si può affermare è che le fioriture microalgali non derivano da apporti di inquinanti nelle acque di mare. Il fenomeno eutrofico lo conosciamo, è generato dal fatto che arrivano sostanze, sali di azoto e di fosforo. Faccio presente, giusto per dare un attimo far mente locale, vi ricordo che negli anni 80 si fece la legge per ridurre i fosfati nei detersivi. Sì, meno male, ecco, piano piano, sì. Esatto, quella è stata un'azione molto forte della Regione Emilia-Romagna a livello nazionale per poter fare una misura incisiva per ridurre i fenomeni eutrofici. Okay. Nel tempo, pian pianino, stiamo incominciando a vedere dei risultati. Per e come sta oggi, come definirebbe la salute del mare Adriatico? Ci sono molte bandiere blu un po' in tutta Italia, a volte uno arriva, vede un mare così e sì, dice, però, ma però non bisogna sapere bene che cosa si intende per bandiera blu. La bandiera blu concorre anche la qualità del mare, ma in realtà certo, ci sono tanti indicatori che concorrono, che vuol dire piste ciclabili, raccolta differenziata, depurazione delle acque, servizi per i bambini, insomma sono tanti fattori che concorrono a una bandiera blu. Ok, ma stando all'acqua, scusi, stando proprio al mare, ecco, alla qualità del mare? All'acqua io posso solo dichiarare, avendo il controllo di tutto il mare Adriatico dell'Emilia Romagna, quindi da Gora Cattolica e da costa fino al confine delle acque territoriali, posso affermare che il nostro mare, ad eccezione di questi fenomeni eutrofici che, come ho illustrato, al lato negativo e al lato positivo, non abbiamo condizioni inquinanti. Ok, quindi diciamo che lo promuove, gli dà un bel voto, sì, da 0 a 10 un 8 glielo diamo? Direi di sì. È ovvio che non possiamo avere l'acqua trasparente della Sardegna, perché noi non abbiamo è diversa la spiaggia, certo, abbiamo il fango, quello sì. Senta, invece, visto che ci stava dando anche qualche indicazione, anche se non la voglio far sconfinare più di tanto, però quelle altre alghe, che diciamo qualcosa a chi ci sta sentendo dalle altre zone dove si parla di queste alghe tossiche, bisogna stare attenti, che succede? Dunque, guardi, intanto il fenomeno è tenuto sotto controllo a livello nazionale. Sì. Nel caso in cui ci sia una presenza di un certo numero di individui per litro, automaticamente si dà un'allerta, non si dà un divieto di balneazione, perché potrebbe essere anche sufficiente quando in particolare ho delle condizioni meteo che con vento forte, in cui questo vento forte mi colpisce questi substrati rocciosi. Sì. E mi crea questo aerosol. È l'aerosol che può creare dei problemi. Quindi non è tanto il contatto con l'acqua, bisogna stare di più attenti quando c'è vento. Adesso esatto. Io ho detto così. Tant'è che possono essere infastiditi anche chi abita ai piani delle case che si affacciano vista mare, sul litorale. Vista mare. Esatto, esatto. Va bene, noi sì, ci fermiamo qua, non vogliamo dare allarmismi, insomma, poi ognuno nelle zone dove si trova bisogna che si informi sulle condizioni del mare che ci sono. Grazie per essere stata con noi. Rientra nella norma informare il turista. Certo. Quali sono le sue tutele. E lo abbiamo fatto anche grazie a lei, Rita Ferrari. Poi venerdì sera chissà quanti staranno cercando di raggiungere disperatamente le ultime mete di mare prima che sia troppo tardi. Borsa. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità continueremo a vivere insieme le grandi storie dello sport in un doppio appuntamento estivo. La domenica alle 16.30 e il sabato mattina alle 6.10. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Buonasera da Alessio Maurizi e vi aspettiamo all'800 24 00 24, vi ritroviamo tra poco. Una notizia molto molto molto si può fare, l'ho data anche nella prima parte del programma, è questa. Il signor Aldo Braito, 71 anni, è riuscito a sopravvivere per 9 giorni a Daiano, in provincia di Trento, sui monti, da solo, si era perso, mangiando soltanto radici e cortecce degli alberi. E, insomma, una persona di 71 anni ha avuto una bella forza di volontà, 9 giorni mangiando solo radici degli alberi, pensate, e cortecce degli alberi. È una bella avventura, finita bene per fortuna, un'avventura estrema, e noi ci siamo detti, ma cosa c'è di più estremo che non passare il Ferragosto, per esempio, in città deserte, quali sono in questo momento le città italiane? Se volete raccontarcelo, 800 24 00 24, titoli del TG3. Segretario di Stato Kerry inaugura l'ambasciata americana a Cuba. Non siamo più rivali anche grazie a Papa Francesco. Dopo 54 anni la bandiera USA torna a L'Avana. L'Eurogruppo è riunito per varare il piano di salvataggio della Grecia, che ieri ha approvato tutte le riforme. Via libera alla prima tranche, dicono fonti di Atene. Positivo il dato del PIL nel terzo trimestre, una crescita dello 0,2%. Padoan in linea con le nostre attese. Delusione Confindustria, non c'è ancora una ripartenza. La visita a sorpresa di Renzi alla festa dell'Unità in Emilia, avanti sul Senato, con o senza Forza Italia, no alla palude, questo paese merita coraggio. Sono 71.000 le domande per il passaggio a tempo indeterminato previsto dalla riforma della scuola, molti però rinunciano al posto fisso, contestato l'obbligo di mobilità. Lorenzo Toma è morto per cause naturali, la procura di Lecce conferma, l'esame tossicologico esclude l'uso di droghe, il decesso in discoteca per una grave cardiopatia. Mediterraneo in pericolo secondo il rapporto annuale di Goletta Verde sullo stato delle nostre coste, crescono le infrazioni alle regole, in aumento le fonti di inquinamento. Eccoci qua, allora andiamo con Riccardo che ci chiama da Roma. Buonasera Riccardo. Buonasera. Prego. Allora, io volevo dire innanzitutto una cosa. Quando si parla di venditori ambulanti, chiamateli venditori ambulanti, che siano abusivi o meno, perché questo sono, vous comprà, è offensivo. È come quando a noi italiani ci chiamavano, ancora qualcuno lo fa, spaghetti, mandolino, mafia, mamma mia, e cose di questo genere. Non ci piace e credo che non piacerebbe neanche essere chiamati a comprare. Questa è la prima cosa. Oppure sciuscià, come si usava una volta, per quelli, insomma, che pulivano le scarpe. Sciuscià. Tante... Sì, poi sciuscià in realtà era un'espressione inglese che i napoletani hanno esatto, siccome la storpiavano, un po' come il marocchino che dice vucumbra e dopo diventa il vucumbra, è un po' la stessa cosa. Sì, sì, sì. Però insomma credo che sarebbe giusto evitare di usare questo tipo di terminologia. Non sì. È... Guardi, tra l'altro io non lo so, credo che qui bisogna fare, non so, autocritica forse, ma sì, perché no, i giornalisti, perché credo che sia più usato nei titoli dei giornali, o tra virgolette o senza virgolette, che nella vita reale, perché io non ho mai sentito nessuno dire vucumprà. Dici è passato lì l'ambulante, è passato quello che vende i tappeti, ma non dice è passato il vucumprà. Io non ho mai sentito. Probabilmente è come dice lei. Il fatto è che appunto lei lo ha detto diverse volte in questa trasmissione. Sì, sì, ho fatto lo stesso errore anch'io. Sì, riferendo magari qualcuno che lo ha detto, è una sintesi giornalistica. Però ammetto che possa essere sbagliata, altrimenti perché fare la polemica all'assessore Donazan sul magrebino di M se poi dobbiamo passarle tutte, lei dice questo? Infatti l'altra cosa che volevo dire riguarda questo, comunque si ricollega a un discorso generale sulla responsabilità dei personaggi pubblici, soprattutto politici, giornalisti, comunque persone che quando si esprimono vengono considerate, vengono ascoltate dal pubblico, dall'opinione pubblica, e queste persone hanno la responsabilità di orientare e influenzare. Vabbè. Sì, no, ma io le ho detto a lei, assessore all'istruzione, mi aspetterei che facesse un passo in più di saper distinguere, e lo ripeto, tra tutti i magrebini e quel magrebino lì. Solo questa è la questione, per cui si tira dietro la critica di razzismo. Perché sa, adesso ci sto ripensando, vucumprà è diverso, perché vucumprà è un modo per sfottere qualcuno. Però quelle persone lì che fanno quel lavoro lì, i venditori ambulanti, il magrebino DM è un modo per offendere chi il magrebino che magari non ha mai rubato niente in vita sua, e questo è un po' diverso secondo me. Però vucumprà si usa soltanto nei confronti dei venditori ambulanti stranieri che in genere sono sono nordafricani, perché io non l'ho mai sentito usare questo termine nei confronti di qualsiasi ambulante italiano. No, glielo ho detto, è uno sfottò nei confronti di chi non sa parlare bene l'italiano, sicuramente. Quindi diciamo può essere ingiusto, però lo trovo meno offensivo. Soprattutto può essere offensivo, però non lo trovo razzista, come invece penso sia razzismo quello dell'assessore Donazan. Grazie comunque Riccardo, buona serata. Andiamo con Gabriele da Palermo. Buonasera. Sì. Salve, buonasera. Ascolti, mi riferisco proprio alla chiamata dell'assessore Veneto. Sì. Le piaceva dire atteniamoci ai fatti. Benissimo, se io mi attengo appunto ai fatti, io leggo un commento razzista. Perché quello è un commento razzista, non prendiamoci in giro, magrebino di merda, è un commento razzista. Se avesse scritto, come diceva lei giustamente, ladro di merda, era un'altra questione, certo. Nessuno si sarebbe scandalizzato, ovviamente. L'altra questione, no, si arrampicava un pochettino sugli specchi. L'altra questione è riguardo l'appellativo di camerata. Non prendiamoci in giro anche qua. Non è un chiamare trottolino, come ribadisco, diceva anche lei. Trottolino camerata fa sorridere comunque. Esatto. Cioè, camerata identifica una ideologia politica ben precisa. Quindi se noi ci atteniamo al rasoio di Occam, camerata, assessore comunque leghista, è un commento razzista, appunto, e basta, non prendiamoci in giro. Va bene, Gabriele. Niente, tutto questo. Grazie. Posso dire un'ultimissima cosa? Veloce, sì. Deve essere una sorta di manifesto, cioè a me, Gabriele, i razzisti fanno schifo. Volevo dire questo. Grazie. Va bene, Gabriele, hai fatto bene a dirlo. Compreso l'assessore Donazan, dopo aver sentito l'intervista. Lei si è difesa, però sì, se quello è un commento razzista, a me quel commento fa schifo. Secondo me lei era un po' consapevole quando ha scritto quella cosa e la voleva scrivere perché voleva sottolineare la sua rabbia per il fatto che ci sono orde di persone fuori controllo nelle città che ti fregano la bicicletta e spesso sono anche degli stranieri, non neghiamocelo, spesso, non sempre ma spesso, però poi si è resa conto forse che aveva passato il segno, tant'è vero che alla fine ha detto la prossima volta non so se scriverei la stessa cosa, qualcosa del genere lo ha detto, quindi... chi lo sa, grazie Gabriele. Fabio da Alessandria. No, sono al telefono. Sì, buonasera. Eccolo Fabio, sì, al telefono con Radio 24, vero? Sì, buonasera. Lo dica in giro, mi raccomando, sì. Sì, grazie. Due cose velocissime. Sì. La prima, ieri lei ha intervistato il conduttore di Gazebo. Sì. Ritengo anche che sia una persona molto intelligente perché ha definito una cosa fondamentale e di cui noi ci dimentichiamo nel momento in cui parliamo sempre solo di barconi. Quelle persone che partono dalla loro nazione per qualsiasi vogliamo problema, sì, che sia economico che sia di guerra, hanno più paura e hanno più problemi a passare il Sahara che non il Mediterraneo. Sì. Allora perché, la domanda è semplice, perché non li aiutiamo a casa loro? C'è la guerra, ci sono le Nazioni Unite. C'è un problema economico, andiamo a insegnargli a fare economia, a fare agricoltura, a qualsiasi cosa gli tornare utile. Personalmente la penso così, è più facile aiutarli là che qua. No, sarebbe più facile, perché se fosse così facile come lei dice si sarebbe fatto, credo. Invece non è... come fare? E questo è il problema, no? Gli investimenti che vengono utilizzati, sì, adesso non sono pochi. Lei pensi al 50% di quegli investimenti cosa potrebbero fruttare nel tempo? Quali investimenti, scusi Fabio? Quali investimenti, scusi? Gli investimenti anche solamente tutte le navi da guerra, purtroppo, perché abbiamo quelle, mettiamo quelle in campo, tutte quelle navi costano dei soldi, non è che sono lì gratis. Cioè, ci sono degli investimenti da parte delle nazioni europee, da parte della nazione italiana, che vanno a soccorrere questa gente. Per carità, bisogna farlo, ci mancherebbe. No, comunque guardi, è difficile, però io sono anche dell'idea che l'unico modo per uscire da questo problema sia quello di trovare delle alternative, delle soluzioni diverse, compreso fare, adesso l'ho già detto, cioè, sottosegretario Manzione ha annunciato una missione, credo, in Niger, per andare a fare non so bene che tipo di campo con dei militari italiani o con una partnership con la Nigeria, ovviamente con il governo nigeriano, per fare un posto di smistamento, per dare anche delle informazioni, cioè per dire guardate, andate incontro a questo, questo e quest'altro. Voi che venite da questo paese non avete diritto all'asilo, quindi sappiatelo, eccetera eccetera. Potrà sembrare velleitario, ma credo che sia l'unico modo per affrontare diversamente questa questione qua, altrimenti stiamo a parlare sempre nei soliti termini. Andiamo con Attilio da Brescia. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo fare solo un'osservazione in merito sempre all'intervento dell'assessore della Regione Veneto. Sì. Ecco, è una questione linguistica. Se avesse voluto essere razzista, avrebbe usato il plurale, quindi magrebini, DM, ma ha usato il singolare, quindi era ovviamente riferito a quello lì. Sì, per cui lo ritengo un peccato veniale. Che è quello che ha cercato di dire lei alla fine, l'assessore. Questo mi è sfuggito, però... Il fatto che sia stato usato il singolare ovviamente cambia un po' la cosa. Non lo so, ci devo pensare su questa cosa qua. Ci pensi. Grazie Attilio. Grazie a lei. Buona serata. Maria Luisa da Genova. Maria Elena, Maria Luisa. Scusi, Maria no, Elena. Ci tengo molto al mio nome perché giusto, mi piace molto. Certo. No, io volevo dire sul mare inquinato. Io abito a Cogoleto, tra Genova e Savona. Da 12 anni che abbiamo il depuratore in costruzione, possibile 12 anni. Sono un po' tanti 12 anni, a meno che state costruendo il più grande depuratore del mondo. E appunto, partito nel 2003, 3 anni fermo perché TAR contro TAR, TAR del Lazio, TAR della Liguria. Ma lei mi ricollega questa questione qua al discorso delle alghe che abbiamo fatto al prima? Al discorso del mare, della qualità dell'acqua. Come non è pulito? Savona, sì. Siamo gli unici 2 paesi, Arenzano e Cogoleto, che non hanno il depuratore, che mandano la fogna in mare. Anche se a 800 metri dalla costa, anche se a 70 metri di profondità, però secondo le correnti come ci sono, arrivano delle chiazze bianche che sono le sostanze tensioattive che ritornano a galla, poi le correnti portano verso... Ma scusi, ma non utilizzate nessun depuratore di un'altra città a fianco? No, niente, non utilizziamo niente, abbiamo questo depuratore in costruzione dal 2003 e ancora non funziona. Non solo, ma la regione Liguria, se entro il 2015 non finisce questo depuratore, pagherà una multa salatissima. Io non sono stato recentemente da quelle parti, però credo che chi turista ignaro che ci capiti probabilmente nota qualche cosa che non va, e quindi insomma, credo che metterà un po' in crisi anche il turismo da quelle parti, oltre che tutto il resto naturalmente. Grazie Maria Elena per il suo grido di dolore sul depuratore dalle parti di Arenzano. Vai. Adesso andiamo un po' più lontano di Arenzano, andiamo in Cina. È un manager italiano che vive da alcuni anni nella grandissima, immensa Cina. Stasera gli chiediamo di svelarci qualche particolare della crisi che sta colpendo l'economia un tempo rampante. Cristian Cattalini, buonasera Cristian. Buonasera Alessio, buonasera. Siamo amici. Cristian vive in Cina da quanti anni? Da quasi 5 anni, 4 anni e mezzo oramai. Il tempo vola, ragazzi. 5 anni, sono già 5 anni. Sì, ma in mezzo ci abbiamo messo anche un bambino con mia moglie Annalisa. Un bambino che a tutti gli effetti è cinese, perché è nato è in Cina. Italiano. Senti tutti subito come viene fuori l'orgoglio italiano. Cristian, è da un po' che si sente dire che la crescita della grande Cina, insomma, è un po' messa in discussione, ha rallentato. Ultimamente però è successo dell'altro, c'è stata questa crisi della borsa, la bolla, la questione si è fatta finanziaria. Ora io non so fino a che punto ci possiamo spingere. Intanto però ti voglio chiedere una cosa: i cinesi ne parlano in TV, nei giornali, di questo rallentamento? Sì, come sì, viene? Ne parlano, sono consapevoli di questa cosa, e ad ogni modo, essendo tendenzialmente nazionalisti, hanno comunque una visione ottimista legata alla visione del governo. Questo è quello che mi pare di poter dire. Il mio punto di vista è quello di un singolo che vive a Pechino, sono un sociologo, però quello che vedo è questo. Cioè, insomma, loro tendono a dare una visione dove tutto va bene. Già succede in Italia, figuriamoci, c'è Renzi che... Sì, danno, però forse lì è presente che il governo cinese gode di una credibilità nei confronti del popolo cinese che è relativa agli ultimi 30 anni di sviluppo. Quindi è una credibilità alta. Non è facile da scalfire. Chiaro, tu mi stai dicendo, io sono un cinese medio, il governo che mi sta governando ha garantito una crescita, uno sviluppo imponente in tutti questi anni, per cui insomma, tendo a non solo a credergli, ma anche a giudicarlo positivamente, chiaro. Sì, direi di sì, che tendono a dare credibilità in qualche modo, sempre con una certa ironia, comunque tendono a dare credibilità alle istituzioni per i risultati e per l'incremento di benessere che hanno avuto negli ultimi 30 anni, che è stato drammatico. In Cina, in tutta la costa della Cina, io ti posso dire che si riscontrano livelli di qualità della vita che oramai nelle città principali sono paragonabili a quelli europei, E anche il costo della vita è di conseguenza. Il costo della vita nelle città principali è addirittura superiore, per esempio, al costo della vita delle città principali italiane. Nelle città secondarie è leggermente inferiore. Però è realmente impressionante quello che si vede nelle città cinesi. Io poi vivo a Pechino, che è una città di 20 milioni di abitanti e che per noi italiani è veramente un'eccezione ancora maggiore, no? Fa paura anche solo a pensarci, sì. 20 milioni di abitanti. Sì, tieni presente che in una città di 20 milioni di abitanti c'è tutta la Cina, cioè, ci sono dei numeri elevatissimi, in questi numeri ci sono tantissimi. Certo, deve essere un acceleratore pazzesco perché in una città così, in un paese appunto che è stato in crescita in questi anni in questa maniera. Però adesso appunto questa crisi, no? Come la definiresti? Una crisi anche finanziaria? Probabilmente è una crisi necessaria relativa alla crescita che c'è stata precedentemente, cioè una crescita basata sugli investimenti. Sì. Che ora non può continuare ad essere sostenuta perché le infrastrutture sono state costruite ad una velocità anche troppo elevata, quindi non c'è più questa necessità e non c'è più la possibilità di continuare ad imprimere all'economia una crescita relativa alle infrastrutture e agli investimenti, e quindi si cerca, tutti parlano di questo tentativo di Xi Jinping di portare l'economia cinese a un'economia basata sui consumi interni e sui servizi, ed è quello che si sta cercando di fare con dei problemi. La Cina è una realtà molto complessa, effettivamente per quello che noi vediamo. Sì. nel business di tutti i giorni, in Cina adesso ci sono dei problemi seri, il business sta arrancando, però appunto perché tu tra l'altro sei impiegato, sei un manager in una diciamo nel settore siderurgico delle quindi il tema delle infrastrutture lo incroci perfettamente, quindi stai dicendo che quasi questa crisi è come un rallentamento necessario rispetto a un'economia che è cresciuta tanto sugli investimenti nelle infrastrutture che adesso sono state realizzate, quindi dicevi, il governo cerca di portare tutto sul piano dei consumi interni, quindi diciamo cambiare proprio anche modello economico, una mezza rivoluzione però. Sì, direi che come molti dicono non è più possibile vedere nei prossimi anni l'economia cinese basata sul low cost come è stata fino ad ora. E tu non è più così. Mi dicevi qualche giorno fa quando stavamo parlando una cosa interessante, cioè anche nell'azienda per cui lavori tu siamo arrivati a un punto, tale è la crescita della Cina, che assumere oggi un ingegnere, per esempio, tra un ingegnere italiano e un ingegnere cinese, quasi la differenza economica non è più a svantaggio. No. Ma sì, la cosa interessante è che questo è a vantaggio, diciamo, del sistema Italia e del sistema formativo italiano, è che come ti dicevo, per assumere un ingegnere italiano neolaureato che ha a nostro parere elevate competenze e un equivalente cinese che ha a nostro parere competenze mediamente inferiori, oramai la differenza di costo del lavoro non giustifica, è più riscontrabile o non è più così pesante in sostanza. Quindi questo potrebbe essere anche un vantaggio per la nostra vecchia Europa, ecco. Quanto pensi di restare ancora in Cina? Ma non farmi queste domande, non sono risposte poi, a cui so dare, non so dare. Perché poi c'è la moglie all'ascolto e la moglie poi vuole delle spiegazioni, naturalmente. Ci vuole stare i prossimi 10 anni. La moglie è bravissima. Però tu ti senti comunque di vivere veramente quella che fino adesso è stata la frontiera, no? La frontiera del mondo. No, noi come ti ho detto molte volte, Alessio, noi in questi anni vivendo a Pechino ci siamo trovati in mezzo a un tourbillon di positività e di ottimismo che per noi era sconosciuto. Penso che abbiamo vissuto una botta degli di vita anni simili a quelli che hanno vissuto i nostri genitori negli anni 60, il boom. Negli anni 60, sì, o i nostri nonni addirittura, sì, nel Italia del boom. Quindi per quanto si possa parlare di crisi, vivono di rendita con tutti gli anni rampanti che ci sono stati fino ad ora. Ecco, direi che adesso è un momento realmente critico, quindi fino ad ora negli ultimi 20-30 anni c'è stato un boom senza precedenti e lo si percepiva nella vita di tutti i giorni, c'era questo ottimismo contagiante in cui tutti i cinesi pensavano di accrescere le proprie possibilità e le proprie condizioni. Mm-hmm. E invece adesso questo comincia a essere scalfito. Comincia a esserci qualche distinguo. Qual è la cosa più difficile che per un italiano che c'è in Cina? In Cina è tutto difficile. Per fare qualsiasi cosa bisogna spendere una quantità enorme di energia. C'è questa barriera comunicativa, data la differenza di linguaggio, che crea dei momenti anche simpatici. Ecco. Ci sono delle incomprensioni. Insomma, già il fatto continue. Che la lingua sia completamente diversa, questo già crea abbastanza difficoltà. Un'altra difficoltà forse può essere capire, adesso è proprio una banalità, cosa ti ritrovi nel piatto quando vai al ristorante. La cosa più strana che ti è capitata di mangiare, più assurda, ce la puoi raccontare? Ma per esempio, io ho mangiato un pesce palla che mi guardava in modo minaccioso. Oddio. Ad una cena di lavoro, non vivo, morto fortunatamente. Morto da poco. Minaccioso, anche perché ho saputo, dopo averlo mangiato, che è abbastanza pericoloso. Insomma. La cucina di quel tipo di pesce è velenoso, ho saputo. L'hanno cucinata qualche ora prima, l'hanno assaggiata i cuochi un'ora prima che noi la mangiassimo, insomma. Una cosa elaborata. Stai attento, mi raccomando. Grazie Cristian Cantalini, grazie per essere stato con noi. Grazie Alessio. Uno sguardo sulla Cina, così, uno sguardo diverso, no? Per capire un po' che cosa sta agitando dietro a questa crisi, ai temi invece più grandi, finanziari, quelli che già comunque analizziamo sui giornali, ma anche nelle nostre trasmissioni economiche. Focus Economia. Adesso mi metterai la base di Coccoluto tra un po', così facciamo un'altra citazione delle basi che usa Sebastiano. Andiamo in pausa? No, facciamo un ascoltatore. Giuseppe da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, io chiamavo in merito alle dichiarazioni del, mi pare fosse un assessore veneto. Sì, l'assessore Donazzan, certo. Esatto, che ha postato un magrebino di M. Sì. E non ha avuto il coraggio di dire che intendeva dire di merda. Allora io gli chiedo due cose all'assessore. Primo, che visto che amministra una regione, dovrà avere il coraggio di quello che dice. Secondo, se a rubargli la bicicletta fosse stato un veneto, avrebbe detto veneto di merda. Secondo me no. Ma poi c'è un'altra cosa che è fondamentale. L'esempio. Lei ha raccontato questa vicenda come se fosse stata Wonder Woman, l'eroina che si è andata a recuperare. Beh, però non è da tutti, non è da tutti quello fare, no, quella però cosa. Però attenzione Alessio, sì. Noi viviamo in un paese civile, sì, dove ci sono le forze dell'ordine. Sì, sì, la signora ha avuto una fortuna allucinante, perché se anziché trovare un ladro a quattro soldi, no, certo, potrebbe. Io infatti non l'avrei fatto. Oggi saremmo qui a dire assessore uccisa da un delinquente, oh, mamma, magrebino, no, però, non so di dove, no, però è rischioso, quindi bisogna rischioso, evitare che chi che sia possa emulare la cosa e quindi farsi giustizia da sé. Ma probabilmente l'assessore ha visto, scusi, probabilmente l'assessore ha visto che la situazione era a portata di mano, no? Erano dei ladruncoli e non piccoli spacciatori, forse, ma non era gente col coltello in mano, col coltello facile, perché non credo che sarebbe andata. Io a mio figlio dico, se ti rubano la bicicletta, anche se la vedi, chiama i vigili, chiama i carabinieri, non recuperartela da sola, è rischioso. Va bene. A parte il fatto che è stata razzista, non è stata capace di dire che è razzista. Questo è vero, no? non ha voluto dire che la M puntata era la parola merda, non l'ha voluto dire mai. Grazie, buona serata, grazie. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, ciao a tutti di nuovo, buonasera ad Alessio Maurizi, 800 24 00 24, andate anche sulla pagina Facebook di Si può fare a mettere mi piace, Si può fare trattino Radio 24, normalmente i nostri canali social sono attivi soprattutto il sabato e la domenica perché questo è il programma che vi tiene compagnia, il buongiorno del weekend, io dico, di Radio 24, il sabato dalle 7.30 fino alle 10, la domenica dalle 8.30 fino alle 11, adesso che siamo in quest'altra fascia oraria è un modo per conoscere anche il nuovo pubblico. L'account di Twitter è Si può fare 24, il mio Ale Maurizi. Andiamo con chi andiamo? Mor, si chiama Mor, che chiama da Modena. Pronto? Pronto? Sì, si chiama Mor? Sì. Sì, prego. No, niente, volevo parlare per quello che riguarda, diciamo, l'immigrazione, insomma, il problema dell'immigrazione. Sì. Di cui si parla questi ultimi giorni. Sì. Perché sento per televisione spesso volentieri dire, insomma, i rifugiati e gli immigrati economici, no? Sì. Si però, fa questa distinzione, certo. Mor, scusi, le posso chiedere, lei non è italiano, vero? No, no, io sono del Senegal. Viene dal Senegal, ok, perfetto. Sì. Prego. Però forse la gente non si rende conto di quello che sta succedendo in Africa. Perché in Africa, insomma, i ragazzi sono sempre rimasti lì più o meno perché l'agricoltura era la prima cosa, bisognava coltivare per mangiare, no? Adesso in Africa è molto difficile coltivare per mangiare perché hanno imposto soltanto coltivazione industriale. Mm-hmm. E li stanno vendendo le terre, vabbè, che poi, insomma, prima l'occidentale, poi i cinesi. Quindi, insomma, ci stai dicendo, Mor, che mentre prima l'agricoltura dava da lavoro a tanta gente, adesso questa gente è senza lavoro? No, dava da mangiare più che altro. Da mangiare. Sì. E adesso questa cosa comincia a essere un grosso problema in Africa, solo che tutti fanno finta di niente, no? Perché si coltiva soltanto per le produzioni industriali e la gente comincia ad andare via perché i ragazzi bene o male si sapevano gestire, insomma, con tutte le difficoltà. E adesso sta succedendo una cosa che è senza precedente perché stanno vendendo tutte le terre. E poi se ti permetti di ribellarti, loro, la tua coltivazione, quelle che tu non vuoi vendere, cioè che tu produci perché non vuoi produrre quelle che dicono loro, sì, non te lo compra nessuno. Cioè tu dici produrre per sfamare la propria famiglia, il proprio villaggio, il proprio territorio, anziché si produceva e poi si faceva lo scambio, no? Anziché produrre per queste, ma chi sono, delle multinazionali? Multinazionali e poi adesso sono anche privati, insomma, privati, sì, con tanti soldi. Ma che comprano e di quale zona? Con i propri occhi, scusa, per dire, di quale zona stai parlando dell'Africa? Cioè in tutta l'Africa succede questo, in Senegal? L'Africa occidentale tutta, Quindi in che paesi sta succedendo questa cosa? Ma i paesi, in parte minore il mio paese, perché io sono senegalese, ogni tanto ci faccio un giro, no? Sì. Però so tramite altri amici anche di qua che, per esempio, i paesi come Costa d'Avorio, Ghana, che erano dei paesi molto virtuosi, la gente stava molto bene. Adesso sta peggio. Adesso hanno venduto tutte le terre. Va bene. In Nigeria non ne parliamo. Cioè va bene, non va bene, però grazie per questa telefonata perché è interessante. No, volevo dirle un'altra cosa, se permetti. Prego, allora, prego. Gli stavo dicendo che sta succedendo un altro fatto, che in Italia nessuno dice niente. Perché noi facciamo parte della formazione e lavoro, non so se lei si ricorda i contratti formazione e lavoro. Va bene, Mora, cosa vuol dire su questo però? Allora, perché ho detto che l'Italia ha investito tantissimo sugli immigrati negli anni 90 e adesso la Germania, la Francia e l'Inghilterra non vogliono gli immigrati, quelli che scendono dalle barche, però stanno venendo qua a prendere tutta la gente che ha una grande formazione. Cioè lei dice che, capito, ci sono immigrati formati in Italia a spese dell'Italia, certo, che adesso vanno in altri paesi, in Germania, in Francia, in Inghilterra, se li vengono addirittura a prendere perché sono formati. Sì, sì, già con un contratto qui. Va bene, d'altra parte poi quando insomma, gli immigrati che hanno i documenti, le carte in regola, possono poi transitare anche, andare dove gli pare in Europa, questo è normale. Titoli della 7. Dopo 54 anni riaperta l'ambasciata americana a Cuba, il segretario di Stato americano John Kerry nella cerimonia L'Avana, che rimarrà alla storia, invita i due paesi a non essere prigionieri del passato. Non siamo più nemici ma vicini, dice. Stamattina il Parlamento greco ha approvato il terzo memorandum con profonde lacerazioni nella maggioranza. I conti interni a Siriza saranno regolati dopo il 20 agosto, quando Tsipras chiederà la fiducia. Ciò che conta ora è il via libera dell'Eurogruppo, ancora riunito, che dovrà sbloccare gli 85 miliardi di aiuti. Più morbida oggi la posizione di Berlino. Arrivano i dati Istat, il nostro PIL per il secondo trimestre consecutivo è col segno più, ma si cresce poco, appena lo 0,2%, un andamento lento che coinvolge gran parte della zona euro. Deludenti i risultati di Francia e Germania, inferiori alle aspettative. Il dato del nostro prodotto interno lordo è lento in modo opposto dalle forze politiche. Per il governo sono state rispettate le stime, ma si può fare di più. Il PD definisce il risultato incoraggiante, mentre le opposizioni parlano di fallimento economico. Delusa anche Confindustria, non c'è vera ripresa, dice il presidente Squillis. Camera e Senato sono chiuse, ma non vanno in vacanza le polemiche. Al centro della discussione politica sempre le riforme costituzionali. Renzi tira dritto, lo faremo con o senza Forza Italia. Il nodo resta il Senato elettivo. Nel PD c'è chi pensa a una mediazione con Berlusconi, ma resta alto lo scontro con la minoranza del partito. Circa 71.000 precari della scuola hanno presentato domanda di assunzione. Il termine è scaduto oggi, dovrebbero entrare in ruolo con l'inizio del nuovo anno scolastico. Alcune migliaia hanno rinunciato per via della destinazione. Il docente poteva indicare la provincia dove insegnare, scelta non vincolante per il Ministero. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua, allora leggo qualche sms al 349-238-6666. Me li vedo i vigili che fanno le indagini sul furto di una bicicletta, ma dove cavolo vivete? La parola non era cavolo, era un'altra. Sì, in effetti io gliel'ho fatto presente a quell'ascoltatore che... Sì, fare la denuncia ai vigili è praticamente inutile nel caso del furto della bicicletta. L'assessore Donazzan è andata, si è organizzata, forse ha anche rischiato un po' andarsi a mettere con un gruppo che lei ha definito di spacciatori magrebini a mezzanotte lì a Sanremo, però fatto sta che l'ha spuntata lei. Poi chi abbiamo? Magrebino DM avrà voluto dire di malaffare, ironizza un ascoltatore. Poi ce n'è un altro, Viero, che dice: vado spesso in Cina, in una cittadina di circa 150.000 abitanti vicino a Shanghai, mi fotografano per strada e sono guardato con curiosità e simpatia. Cioè, a sottolineare insomma che non c'è proprio tanto sviluppo. Ma infatti Cristian Cattalini diceva: nelle grandi città c'è molto sviluppo, ma nelle altre città non è assolutamente così. Alessandra da Vicenza, buonasera. Sera. Prego. Niente, io ho chiamato, lei aveva anche già espresso il concetto di un, penso, di un mio corregionario, il signor Cunico, che sì. Praticamente l'assessore Donazzan, chiaramente in tutta piena ragione per quanto gli è successo rispetto al furto della bici, però mi sembra che non c'è proporzione rispetto al fatto che ha usato parole estremamente dure e generalizzanti rispetto a chi le ha rubato la bici, ma non l'ho mai sentita scagliarsi in termini altrettanto categorici e drastici e forti rispetto ai suoi ex colleghi o ex dirigenti della regione di cui lei è assessore, che hanno rubato centinaia di migliaia di euro, o rispetto al fatto che, per esempio, noi veneti... Lei dice che avrebbe potuto dire veneti di merda a proposito di quegli assessori o di quei corrotti che ci sono, certo, in Veneto. O perlomeno, sempre per non generalizzare, visto che è così diciamo temperamentosa, usarlo nei confronti di colleghi che sono stati già condannati in via definitiva, però non mi sembra abbia mai espresso nessun giudizio altrettanto drastico. Qua non parliamo di una bicicletta. No, non l'ha fatto, perché sarebbe stato ridicolo farlo, dire veneti di merda, ma come certo, è ridicolo dire anche infatti, il magrebino di merda. Però diciamo almeno una condanna, più elegante, ma moralmente chiara ed esplicita, non sì. L'ho mai sentita. Vabbè. Quindi le proporzioni non sono decisamente rispettate, non c'è il senso della proporzione, ripeto, siamo molto più sensibili, almeno noi veneti, rispetto alla sicurezza della microcriminalità, poi ci facciamo soffiare miliardi con il MOSE, col Financial Project, che fra l'altro è stato diciamo in questi giorni completamente è stata espressa, di te è stata espressa l'intenzione di abbandonarlo anche da Zaia, e però mi sembra che sui miliardi noi veneti siamo un po'. Certo, su una cosa le do ragione, fa più danni, cioè fa meno danni un ladro di biciclette di un assessore, di un ministro che si magna i milioni o i miliardi sul Mose, sicuramente fa più danni. Grazie Alessandra. Grazie a lei. Davide da Milano. Grazie. Davide, buonasera. Oh, per fortuna le ha detto quest'ultima frase, la ringrazio molto perché non sapevo più cosa dire, confuso dalle troppe cose dette da una parte e dall'altra su questo caso dell'assessore, sì. Avevo telefonato per dire una cosa, poi nell'evoluzione della discussione mi è venuta a mettere di dire un'altra opposta, e poi dall'altra non sapevo più se difendere questo assessore un po' le dislike per come precisa di essere bella, giovane, donna, e che il fidanzato è vestito meglio di come era quella sera, quindi mi sembrava un po' Alessandra Moretti all'inizio, però a parte questo, quindi parteggiamo per lei sulla carta, perché quando è stato quotidiano punta il dito contro qualcuno, io mi sento sempre dove stare dalla parte opposta. Ma perché poi, il Fatto Quotidiano? Perché è uscita la notizia sul Fatto Quotidiano. Io l'ho vista sul Corriere, comunque. Ma io adesso ho cercato ora su internet, la prima uscita era Fatto Quotidiano. Ah, va bene, io ho visto un trafilettino ino sul Corriere oggi. Devo dire, non l'avevo mai sentita, mi sono informato adesso, ho visto sia la foto sia... Non stando in Veneto, sto a Milano, quindi non ero informato sulla stessa risposta del bene. E quindi, alla fine, però, che idea si è fatto? L'idea che alla fine mi sono fatto è che è troppo semplicistico avere il mito del buon selvaggio. Cioè? Ed è questo sì razzista, cioè pensare che il poverino che ha rubato una bicicletta è meno grave dell'assessore che ha rubato il centenario. Anche questa di per sé è un'assurdità. Non voglio difendere l'assessore, però scusi, non è il buon selvaggio, è semplicemente una valutazione, cioè io la penso così, penso che faccia più danni alla società un Calisto Tanzi che frega milioni di risparmiatori di un magrebino che ruba una bicicletta. Io la penso così. No, io penso che quando intanto si fa un furto di questo tipo e si arriva alle colluttazioni, si va a colpire la singola persona, intanto c'è sempre il rischio della degenerazione anche violenta, e quindi questa è una violazione brutale e molto più forte di un qualunque reato finanziario, per me, prima di tutto. Quindi, sì, però se parliamo del numero di persone coinvolte, capisce che un magrebino che ruba la bicicletta fa male alla persona a cui ha rubato la bicicletta. No. Il ministro che si mette in tasca i soldi del Mose e che poi viene condannato, frega i soldi a tutti gli italiani, tanti. Non ho avuto mai a che fare con la politica e con ruoli di... Beh, ma legga il giornale però, scusi, allora di che stiamo parlando? Ringrazio molto, grazie al consiglio, non ci avevo pensato. Però voglio dire, non ho mai avuto a che fare con la politica, sia mai che io devo fare il difensore. Ma la politica ha a che fare con lei, mi scusi, adesso lei non faccia il finto tonto, dice non ha mai avuto a che fare con la politica, nemmeno io frequento ministri o assessori, non è che mi prendono a schiaffi i ministri, però se le sto dicendo ci sono ministri condannati, politici, situazioni allora, di questo genere. La pena di morte è un politico che ruba e lasciamo... Anche se lei non li guarda e fa finta di nulla, ci sono, ha capito? Allora si tratta di confrontare la pericolosità tra un ladro di biciclette e l'ascoltatrice prima parlava di assessori corrotti e condannati per frodi fiscali anche grandi in Veneto. Questo era il confronto, anche se non capita di imbattersi in questo. Mi sta ascoltando? Sono ancora in linea? Sì. A me fa molto più paura uno scippatore che può far cadere mia mamma che ha 86 anni che un ministro che sta provando a rubare dei soldi, perché se siamo tutti bravi a svegli non glieli facciamo rubare, questa è la differenza. Se siamo tutti bravi e svegli e scegliamo i nostri amministratori pubblici nel modo giusto, quel ministro non arriverà a rubare. Va bene, sul pianeta Pandora questo succede, mi scusi. Sul pianeta Italia non è esattamente così. Però comunque sono ancora un sognatore che pensa che magari un pochino il mondo possa migliorare. Ma sogno anch'io, figuriamoci, che possa migliorare. Se non avrei dato il titolo Si Può Fare. A me fa molto più paura quello lì che ruba la bicicletta e che è l'altro che può scippare domani mia mamma, del ministro che proverà a rubare, e noi saremo lì. Voi giornalisti, non che proverà a rubare, che ha già rubato, no? Perché se mi fai il confronto tra quello che frega la bici e quello che proverà, certo, fa niente. Facciamo in modo che ci sia un futuro migliore in cui nessuno scippa e nessuno fa il ministro. Ma questa sera io ho più paura di quel ladro di biciclette o di quello scippatore o di quello che può aggredire me e mia moglie questa notte. Sì. Beh, il ministro che è là a provare a fare l'appalto, che ne so, fermiamoli, cioè, abbiamo i geni dell'anticorruzione, il commissario dell'anticorruzione tutte le volte. Ma scusi, ma è ovvio che fa più paura quello che ti frega la bicicletta col coltello in mezzo alla notte, è chiaro che ti fa più paura, però razionalmente cioè, arrivano a capire che è grave anche l'altro e che bisogna preoccuparsi anche dell'altro, che è quello il discorso che faceva l'ascoltatrice di prima. Paternalistico, ci arrivo a capire, ma può darsi che abbia cosa da insegnare a lei, ma come si permette di parlarmi in questo modo? Non riesco a capire, ci arrivo a capire. Allora, se ci arriva a capirlo, non capisco perché insiste a dire che quello non lo vede e non le fa paura. Io le dico, anche se lei non lo vede, c'è, quella cosa lì c'è. Allora, se la vuole confrontare, la confronta, se no fa finta di nulla. Ma sì, è utile questo esercizio di confronto. No, lei che... Riscrivere il codice penale, decidere quale pena dare a questo e quale pena dare a quell'altro, cosa dobbiamo fare? È lei che ha tirato in ballo il paragone di prima, è lei che ha detto che non le piace il mito del buon selvaggio. Questo atteggiamento di perdonismo nei confronti del povero Cristo. Ma non è perdonismo, bisogna metterlo in galera quello che ruba la bicicletta. L'ascoltatrice di prima ha fatto un altro discorso, ha fatto un confronto e ha detto perché l'assessore non se la prende anche con colletti bianchi che hanno commesso dei reati in Veneto chiamandoli per esempio veneti di merda. Questa è la domanda che ha fatto. Io poi non sono io a dover rispondere. Automobile qualche mese fa, eh? Ero in macchina con mia moglie, siamo stati inseguiti in automobile da qualcuno che voleva evidentemente rapinarci. Io quella sera sono rientrato in albergo, ho chiamato i carabinieri, insomma è stata complicatissima, ma ero in uno stato di eccitazione e di tumulto. Ma certo, ma figuriamoci, ma le do ragione. Una sensazione di questo tipo io non la proverò mai, neanche nei confronti del peggiore ladro di pubblici denari. È una cosa completamente diversa. Bravo, è una cosa diversa, però non smettiamo di fare il confronto anche con le altre cose, questo dico io. Grazie, devo fermarmi qua perché c'è il traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. È in tour con uno spettacolo estivo tra Calabria, Abruzzo e Sardegna, è uno dei volti della campagna Expo dei Popoli, ha appena scritto un libro a nessuno piace caldo che parla con ironia del futuro ambientale del pianeta Terra. È Giobbe Covatta, ciao Giobbe! Applausi, entusiasmo. Ti è piaciuta la musica? Hai riconosciuto che cosa abbiamo messo in sottofondo? Glenn Miller? Esatto, abbiamo messo la sigla del celebre film a cui ti sei ispirato per il titolo. Come mai hai scelto questo titolo per il libro? Perché adesso ve lo posso dire, io non ho 34 anni e ne ho 60 e per cui diciamo che quel film lì faceva un po' parte della mia... Sì. No, beh, io insomma sono più giovane di quel film, però insomma faceva parte del... Vabbè, io sono ancora più giovane, però l'ho visto anch'io, fa parte un po' di tutto. Sì, fa parte del bagaglio che uno si porta appresso per il resto della vita, quello cinematografico. Poi... E siccome lì a qualcuno piaceva caldo, qua mi pare che la calderia non piaccia a nessuno, insomma, non mettiamola così, ecco. Allora, fra l'altro siamo nel pieno di un'estate, a parte gli acquazzoni in Calabria, abbastanza calda, quindi siamo quanto mai in argomento. Senti, un libro che insomma un po' serio, un po' meno serio, come mai da comico hai sentito diciamo il bisogno di appoggiarti così anche a degli dati scientifici, a delle pezze d'appoggio, diciamo così, un po' più serio? Perché io sono da grande voglio fare Piero Angela e quindi mi sto allenando in quel senso là, ma a me piacerebbe veramente fare Piero Angela da grande, con tutto il rispetto per Piero Angela, intendiamoci, ma insomma mi piacerebbe fare la divulgazione. È un po' hai cominciato a farlo con i tuoi spettacoli, sì, da tanto tempo ti occupi. Ma mi piacerebbe molto riuscire a fare una divulgazione divertente, perché penso che attraverso il divertimento ci sia più possibilità di transitare delle conoscenze sommarie, limitate. Ti dico, il libro adesso se uno se lo legge non è che scopre chissà che, ma però si incuriosisce secondo me a una serie di cose. Ecco, allora quello che io penso essere la divulgazione consiste proprio nella curiosità, di instillare la curiosità in qualcuno che può ovviamente deve andare a cercare e ad approfondire magari anche più seriamente ancora. Tu dici la Terra ha la febbre, no? A un certo punto, come sarà questo futuro che descrivi in maniera così paradossale, con dei voli pindarici che appunto fanno sorridere? Ci vorrà un'aspirina per questa Terra o qualcosa di più? Guarda, secondo me serve qualcosa dose più dell'aspirina. Però ti dico, il libro è basato su dei modelli scientifici, quindi insomma, quello che succederà, dico che succederà, non uso il condizionale appositamente perché non credo che ci sia la possibilità di sfangarla, però dico, per cui quello che succederà alla Terra è scientificamente confortata dai modelli. Certo, il comportamento umano ovviamente è un'invenzione pura, perché se l'aumento della temperatura di 2 gradi corrisponde a un aumento di volume del mare, non sapremo mai come ci comporteremo noi finché non accade. A questo voglio leggere qualche passaggio, così per capire anche il modo in cui tu tratti queste cose. La pianura padana sparì sott'acqua e venne chiamata Golfo di Torino. Si potevano fare i tuffi in mare dalla Torre Eiffel. Una spiaggia in Scandinavia diventò la nuova Saint-Tropez. E via andare. Cioè, fai ridere, però ci vuoi anche mettere un po' di paura. Cioè, finché secondo te non avremo un po' di paura, continueremo così ad andare avanti allegramente. No, secondo me anche quando avremo un po' di paura. Ma insomma, sai come siamo fatti, no? A noi ci devono proprio dare le martellate direttamente sui piedi, non basta un po' di paura, serve proprio la tortura, se no non arriviamo da nessuna parte. Però d'altra parte, sai che oggi, proprio oggi abbiamo superato il bonus di quest'anno, nel senso che da oggi in poi, sì, quindi dal 14 di agosto in poi, cominciamo a consumare le riserve della terra. Sì, come no, il giorno del sovrasfruttamento delle risorse terrestri. Il giorno del sovrasfruttamento, quindi insomma non è che non lo sappiamo, ma tu hai mai visto qualcuno che dice porca miseria, oggi è il giorno del sovrasfruttamento, basta sfruttare? Beh no, non è mai successo. Però secondo te questa paura sta entrando nella testa di chi ci governa? Perché ora pensare che singolo cittadino, la singola persona possa cambiare queste cose, o anche semplicemente farsi parte del suo carico di responsabilità, è giusto, però magari è difficile. Invece chi dovrebbe avere questo senso di responsabilità? Cioè le grandi riunioni, si sente sempre l'ONU, ci sarà la conferenza a settembre, Obama, il clima, eccetera. Sono solo parole secondo te, o sta cambiando veramente anche un po'? Io credo che loro la sappiano più lunga di noi e comincino a essere preoccupati, perché il petroliere che vende petrolio, se è morto non lo vende più, per cui anche al petroliere gli interesserà rimanere vivo, no? Indipendentemente dal business che può ottenere dalla vendita dei combustibili fossili. Io credo che loro comincino in qualche maniera a preoccuparsi, ma in realtà quello che credo io è assolutamente banale rispetto a tutta una serie di cose che probabilmente loro hanno a disposizione, informazioni, frecce ai loro archi e tutto il resto. Però riesce a farci sorridere su questo. Probabilmente esiste anche una tecnologia in grado di risolvere tutto il problema che non viene messa in circolazione. Ecco, perché ci sono, no? Politica, ovviamente. Gli ottimisti, Giobbe, gli ottimisti sono sempre quelli che dicono ma si troverà una soluzione, quelli che dicono che il futuro, la scienza risolverà tutto, no? Sì, ma io lo spero, mica sto... Non spingo verso il baratro. Tu dici, nel frattempo attrezziamoci. Però non mi pare che ci siano le condizioni per galleggiare su questo mare di... Non mi viene la parola. Diciamolo. Vabbè, non mi viene. Senti, adesso stai girando appunto l'Italia con uno spettacolo. Io qua davanti a me alcune date. Il 16 agosto sarai a Formia, poi all'Aquila, a Vieste, in Sardegna. Sei stato... Meno male che ce l'hai tu le date. Perché... in questo momento. Poi ti chiamo per avvertirti. Ti faccio... che sotto lo dimentichi. Sei stato anche chiamato da una rete di associazioni che si chiama Expo dei Popoli in questi mesi qua di avvio dell'esposizione, così a testimoniare che cosa? A testimoniare che il fatto che rispetto al mettere in mostra paesi, a mettere, a raccontare storie di stati che cercano di nobilitarsi anche a dispetto delle oggettive difficoltà che hanno. Insomma, esiste poi su questo pianeta, esistono 7 miliardi e mezzo di persone che sono altro rispetto alle organizzazioni, che sono altro rispetto agli stati, che sono altro rispetto alle multinazionali, che sono altre, sono le persone. E credo che siano quelle che dovrebbero avere il maggior rispetto possibile, quelle che dovrebbero interessare oggettivamente tutti quanti. Invece sembra che tutto si aggiri intorno. Io sono stato all'Expo, non è che non ho voglia di sparlare di cose, ma insomma l'idea che ogni paese promuova se stesso. Io sono andato nel padiglione del Sud, hanno il paese più povero del mondo, adesso sì. Probabilmente qui dentro troverò anche qualche indicazione relativa alle difficoltà degli uomini, delle donne nella sopravvivenza. Invece c'erano i momenti, c'erano anche il Sudan. C'è un momento proloquo del Sudan, ma non un approfondimento. Sì, ma un momento proloquo di tutti quanti, ma in realtà poi nessun espositore parlava del proprio popolo, delle difficoltà del proprio popolo, di quanto. Il tema, partiamo dal presupposto che il tema è sfamiamo il pianeta, non è che il tema è c'è secondo te un po' di superficialità. Io mi sono fatto questa idea, per esempio, che sui contenuti Expo sia sicuramente debole, che ci sia più una parata, come dici tu. Forse la cosa che è stata centrata è l'idea, no? Il messaggio che si possa parlare, è stato un veicolo di discussioni sulla sostenibilità, sull'ambiente, cioè forse ha aiutato chi magari già se ne occupa come argomento di nicchia, invece ha dato un po' una mano a parlarne. Forse questo è un obiettivo raggiunto, così la vedo io. Tu come la vedi? Expo sì, Expo no? Che gli obiettivi io mi fanno sempre un po' tremare le gambe, nel senso che tu ti ricordi gli obiettivi del millennio, il Millennium Goal, i 10 obiettivi che ci siamo posti al passaggio del millennio, tu hai seguito, cioè entro il 2015 che ci siamo, sarebbero dovute accadere tutta una serie di cose, di tutte quelle cose che abbiamo promesso e che abbiamo immaginato. La cosa straordinaria è che non è successa neanche una. Che non è che dice, sai, siamo arrivati al 25%, purtroppo ci siamo fermati all'80%, non è successo nulla. Quindi tu dici è finito il momento di discutere, o si fa qualcosa oppure è che se al momento di discutere segue poi un'azione è un conto, ma se la discussione si fa e poi finisce tutto lì, mi sembra un po' sterile tutto, ecco. Poi, quindi, io continuo a dirti, sì? Sono un ottimista, per cui continuo a sperare che poi una percentuale ancorché infinitesimale di tutti coloro che discutono si metta anche in discussione, sarebbe già un risultato. Alla fine però che voto daresti a questo, dopo esserci stato, dopo aver appunto fiancheggiato con questa Expo dei Popoli, che è una rete di associazioni, ci sono Slow Food, WWF, sì, che sono critici però stanno anche un po' dentro, quindi diciamo è un po' una via di mezzo, no? Che voto daresti a questo Expo da 0 a 10? Ma guarda, io vengo da architettura e dal punto di vista architettonico gli do un voto altissimo. Sì, però non era quello il tema, dici tu. Esatto. vabbè. Però siccome vengo anche dal terzo mondo, sì, da quel punto di vista gli do un voto bassissimo. Basso, meno di 5. Ne sa di sì. Vabbè. Senti, Giobbe, hai anche un progetto per quest'autunno, uno spettacolo con Enzo Iachetti? Vuoi raccontare sì, qualcosa di questo? Sì, sono in scena con Enzo, uno spettacolo sulla malattia mentale, sì. E perciò ho scelto Iachetti. Continui in questa sfida di farci ridere su questioni che sono per niente da ridere, insomma. E noi ti ringraziamo. Credo per che le questioni che non sono per niente da ridere sono tante questioni su cui si può ridere, perché io continuo a pensare che non esista nessun argomento sufficientemente serio da non poter essere. Bravo, sono d'accordo. Anzi, guarda, qui davanti a tutti ti dico, quando verrai, se verrai a Milano con lo spettacolo di Enzo Iachetti, ma anche da solo, vieni in studio, si può fare. Noi però da settembre transitiamo il sabato e la domenica mattina come orario, quindi te lo dico, bisogna svegliarsi non tardissimo, non so come te la cavi con la sveglia. Però. A che ora bisogna svegliarsi? Beh, possiamo fare un domenica mattina verso le 9:30, 10. No, ma io quel giorno non posso. Va bene, ho capito. Ti aspetto, Giobbe, ti aspettiamo tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie, un abbraccio. Ciao, a presto. E invece con voi, cari ascoltatori, l'appuntamento è per lunedì prossimo, 18, 20 e 30, con Si può fare. Grazie a tutti. Ciao, buon weekend da Alessio Maurizi. Ciao.